Silvio, vieni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelle stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Grande show in Parlamento, inizia la Zanzara Show di questa sera alle 18.33, cari ascoltatori, ma soprattutto grande show in Parlamento, protagonista sempre lui al servizio della gente, al servizio del popolo, al servizio della comunità, Gianluca. Good year. Buon anno. Diciamo. Buon anno sarà quello lì. Quello che ha esposto quei cartelli vergognosi. Ma no, che ma poi... non c'è solo i cartelli. Quello che ha detto sodomia e libertà. Sodomia a quelli di Selle, invece di Selle. Sinistra, ecologia e libertà. Il pro sindaco di quel sodomia e libertà. Il personaggio. Il gallo che canta non ci casca. Ma è la sostanza. Chi, come il partito della sinistra e libertà, siccome hanno altre idee molto più importante secondo loro di quello che riguarda la sicurezza dei cittadini, per loro è importante vedere se c'è il matrimonio tra lo stesso sesso, se c'è l'adozione tra lo stesso sesso, per cui invece di chiamarsi sinistra libertà si chiamassero sodomia e libertà, perché no, nella cortesemente sostanza... deputato. Oh, alla fine l'hanno cacciato, con gli insulti di sinistra, ecologia e libertà. Lui rispondeva: sono qui, venite, uscendo dall'aula. Gianluca, buffone. Good year. Gianluca, buffone. Good year. Però prima della meravigliosa, però devo dire la verità, cioè a livello di battuta non è male, perché sodomia e libertà. Cioè, vabbè, già... neanche più al bar di Varallo Sesia, dove ci sarà un bar solo a Varallo Sesia. Neanche lì fanno più queste battute, neanche perché i cittadini di Varallo Sesia sono infinitamente un milione di volte migliori del loro ex sindaco, pro sindaco, pro perché. Vergogna. Se i piccioni spariscono. Però come battuta non è male. Uno dice sodomia e libertà in Parlamento, tipo cabaret. È quello che piace a noi, no? Stupidaggine pazzesca. Comunque tutto era iniziato da un intervento in cui il signor Buonanno, good year, come dici tu, e parlava, lo sai, di quello Snowden, no? Quello dei files americani, eccetera. Ha paura che i sommergibili russi, ti assicuro, così. Anche il tema ha paura che i sommergibili russi lo portino sulle coste italiane e lo facciano sbarcare come clandestino. Senti. Ma magari. Stanotte, dopo aver preso una tisana, ho riflettuto su una vicenda importante, e cioè sulla questione della spia Snowden. Il problema è questo: avendo chiesto asilo politico al nostro paese, la preoccupazione è, non è che magari nel Mediterraneo c'è qualche sommergibile russo che fa uscire questo signore e ce lo ritroviamo magari sulle coste di Lampedusa. A questo punto il governo come si comporta? Lo prendiamo come profugo? Lo teniamo per l'asilo politico? Io vorrei sapere dal ministro della difesa innanzitutto se ci sono sommergibili russi vicino alle nostre coste, e poi cosa fa il governo nel momento in cui Snowden eventualmente ce lo ritroviamo a nuoto sulle coste di Lampedusa e chiede asilo politico. La ringrazio, onorevole Buonanno, grazie. Senti l'imbarazzo del presidente, grazie, come si fa con i matti, no? Perché Buonanno che discute di questi temi è i come... sommergibili ma russi. No, ma è come se io mi mettessi a ragionare di fisica quantistica con un fisico a termonucleare. Cioè ognuno deve occuparsi delle cose che sa. Lui non sa un cazzo di niente, si occupa di Varallo Sesia, ma non si mette a fare interrogazioni parlamentari su uno che ha nuoto. Cioè di che cosa è per i... è gente... basta! Non capisci un cazzo! No, in questo caso non io. Buonanno che parla di cose che non sa. Buonanno e sua madre. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Se puoi, grazie. Onorevole Lussamanno, per favore. Mi sento un po' indifeso, Presidente, mi faccia La capisco, ma ci sono io a garantire la sua libertà di espressione. Mia mamma ogni giorno mi dice: Gianluca, fai il bravo, ma fatti difendere. E se i piccioni spariscono. Era Giacchetti quello che presiedeva. Sì, sì, sì, sì. Buonanno, chiedo di essere protetto perché i comunisti mi rompono le palle. Stanotte ho visto la televisione un'intervista del giornalista Mentana al ministro Cancellieri proprio ieri, mentre il ministro Cancellieri ha fatto delle affermazioni. Allora, deputato, mi scusi, no, fermiamoci perché non possiamo andare avanti. Ma scusi, deputato. Io chiedo di essere protetto perché non posso mai parlare rispetto a questi comunisti che ogni volta no, che parlo, deputato. Deputato Buonanno, un attimo. Vabbè, inutile ricordare le ultime performance qui da noi, altrove, di Buonanno. Solo una sui gay, così. En passant, Buonanno e i gay. Tutte le papere piangono. Sei un gay, si avvicina a te e ci prova, tu che fai? Gli do un calcio nei coglioni. Ma dai, ma perché così? Ma perché no, scusa, ma permettimi, se uno viene a rompermi le palle, che ho capito, ma se uno ti corteggia, gli dai un calcio nei coglioni. Sì. Vabbè, lasciamo perdere, Buonanno. 800240024, questa è la Zanzara, prosegue la polemica sulla Santanchè, l'incredibile polemica sulla Santanchè, a partire da Rotondi, che ovviamente non fa polemica perché era ministro quando la Santanchè era sottosegretario all'attuazione per il programma, il quale Rotondi dice: mi avvolgo alla pitonessa e non mi stritola. La pitonessa io la voglio vicepresidente della Camera e dirigente del mio partito. Segretario organizzativo del Popolo della Libertà. Non è che dobbiamo essere obbligati o essere in caserma o pensarla tutte allo stesso modo. Io mi avvolgo disinvoltamente la pitonessa e non mi stritola. Il tuo amico Fiano del Partito Democratico. Emanuele Fiano, brava persona. Sì, sarà pure una brava persona, però dice una stronzata. Non voto una fascista vicepresidente della Camera. Non ha tutti i torti. Ma una puttanata inaudita. Non ha tutti i torti. Una puttanata inaudita, dai. Piano. Io mi rifiuto di votare alla vicepresidenza di una delle più alte istituzioni della Repubblica una persona che si dice orgogliosamente fascista. Ho una personale contrarietà al fatto che qualcuno che si identifica ancora in un regime che era contro la libertà. Nel 2008 in una trasmissione di Sono andati a cercare la campagna elettorale del 2008. La ringrazio se posso finire, Polverini. Prego. Nel 2008 intervista di Lucia Annunziata. Beh, se è vero, come credo sia vero, era, è legittimo. Era candidata con Storace e ne diceva di tutti i colori. È legittimo. Ma che fai, legittimo. Brunetta? È legittimo. Hai visto che se l'è presa con cosa, no? Con Floris stavolta. Con Lucia, tutto l'elenco. L'elenco, però devo dire minuzioso di alcune cose che Floris... Non l'ha messo il sottoscritto. No, Floris fa passare alcuni ospiti come ospiti neutri, in realtà non sono neutri manco per economista di sinistra, quello di sinistra, capito? Ma non ha altro da fare tutto il giorno, sua Brunetta, che fa delle liste tutto il giorno. Guarda tutte le trasmissioni tutto il giorno, fa delle liste tutto il giorno. Sua Brunetta. La Comi, molti se la sono presa per questa cosa, Lara Comi, europarlamentare PDL, no, all'IMU sulla prima casa, a parte i castelli. E su chi è che abiti in un castello? Beh, no, sono tanti che abitano i castelli. No, è perché nelle leggi c'è sempre scritto tranne i castelli, le ville di lusso, saranno pochi quelli che hanno i castelli. Dai, Berlusconi c'è il castello. Ma no, ma che castello? Non è classificato come castello. Villa Gernetto è proprio Ma non credo, comunque. Quello dove c'è la sua libera università, no? Comi, è un castello. Premesso che sono dell'idea che l'IMU non debba essere pagata per la prima casa, a eccetto e a eccezione di quello che è già stato inserito nei provvedimenti, quindi le case signorili, i castelli, tutto quello che può essere di particolarmente extra lusso. Questo comprendeva anche l'ICI, che aveva sospeso. Penso che siamo tutti d'accordo. Beh, non si sa mai, non si sa mai, perché potrebbe essere l'abolizione totale. Invece anche nell'ICI che aveva proposto Berlusconi con l'abolizione, erano però presenti il pagamento sulle ville signorili e sui castelli. Allora, la tesi di Brunetta è che in realtà Ballarò è preceduto dal trattamento Crossa. che spolbera sia a sinistra e a destra, però a quelli di sinistra li tratta come ogni tanto come stupidotti al massimo, quelli di destra invece come truffatori, ladri, briganti, criminali, eccetera. Diciamo che non ha tutti i torti, ma insomma anche qui è scoprire l'acqua calda, cioè per chi parteggia o per chi ha simpatia a Crozza, non è che lo scopriamo adesso, cioè, e comunque è più facile fare satira su certi eccessi della destra, no? Non c'è dubbio. Crozza sulla Santanchè, per esempio. Guarda che la Santanchè non sfigura affatto. Va bene, la Boldrini ha iniziato, tu mi dirai, la sua carriera all'ONU, ha passato anni ad aiutare i migranti e i rifugiati internazionali, però ragazzi la Santanchè ha fatto la collaboratrice di La Russa, ha passato una vita a difendere Berlusconi ed è fidanzata con Sallusti. Cazzo di opere umanitarie ne avrà fatte anche lei. Intanto al numero verde ci chiama la signora Jacqueline da Roma. Jacqueline. Ma che è una... Buonasera signora, dica. Buonasera signor Cruciani. No, io ieri ero un pochino frastornato per quanto sentito da parte della Zanicchi. E sinceramente è una signora che trovo molto disagreabile. E io ricordo, avendo fatto... Spiacevole, da ragazza, perché? Scusi, non ho capito. Cosa ci trova di così strano? Beh, per la frase che ho usato nel chiamare il suo amico, c'è un altro modo, poteva dire scendi, no? Vabbè, ha fatto una cazzata, Sì, esatto, allora... Ma non mi pare niente di particolare. Non è quello l'aspetto grave. Bonsoir. Mario da Cesena, ma che ne so. Parla anche in francese. Mario da Cesena. Ma buonasera. Del colpo di Stato in Egitto non parliamo. No, me ne foto, Mario da Cesena, Mario. Approfondimento. Buonasera, Mario. Sì, dica. Mi sente? Sì, dica. Allora, io volevo parlare col dottor Parenzo. Eccolo. Che rispetto tutti. Io sono un autista. Sì. Molto bene. Allora, lui offende sempre gli autotrasportatori. Ma non è vero. Mai fatto. Sono un amante dell'autotrasporto, dei guidatori dei pullman, dei torpedoni che prendo sempre, del mezzo pubblico. Gli autisti li voglio bene, tranne Savino da Bari, questo signore che... Ma qual è il problema, Mario? Dottor Parenzo, non siamo tutti come Savino da Bari. Lo so, appunto, ma quel Savino da Bari che è diventato l'editorialista di punta di questa trasmissione, ecco, quel Savino da Bari mi sta sulle balle. No, siccome mi sentivo un po' offesa alla categoria. No, ma quale categoria? Ma figuriamoci, ma io sono io stesso un autotrasportatore della parola, quindi... Vittorio? Sì. Eccolo. Come stai? Molto bene. Bene, bene. Bene. Ma dove sei? Sono a Viterbo, sono stato a fare una conversazione con i carcerati del carcere duro di Viterbo. E che fai al carcere duro di Viterbo, scusa? Bene. No, sono andato lì, è previsto, domani viene la Mannoia, è un festival che si chiama Caffeina, che tu forse conosci, sì, che oltre a esprimersi in presentazione di libri si esprime anche in visite e conversazioni con i carcerati. Scusami Vittorio, che tu vorresti praticamente trasportare Pompei fuori dalla Campania, perché Pompei si può salvare solamente se praticamente si toglie dal territorio, o no? Beh, è una metafora, non si può trasportare niente fuori, per quanto sono degli esempi abbastanza singolari. L'altare di Pergamo, che è uno dei più grandi altari della Grecia antica, è a Berlino, per cui non lo so, sarebbe meglio che Pompei fosse a Berlino. Beh, da un certo punto di vista, non dire il Partenone, è meglio che siano a Londra che non ad Atene. Cioè la Campania non è in grado di ospitare Pompei, diciamo la verità. Cioè, il problema è la Campania. La Campania potrebbe ospitare Pompei soltanto se facesse una area limitata o militarizzata, cioè isolandola da Napoli. Ma c'è stato un dato positivo che io non racconto nell'articolo, che noi abbiamo fatto, quando ero sottosegretario, dei poli museali una sovrintendenza autonoma di Pompei. L'autonomia era già all'inizio del discorso che sto facendo. Di poi invece un furbissimo sovrintendente, per la questione dei risparmi, ha riaccorpato Pompei alla sovrintendenza archeologica di Napoli e quindi l'ha ricoinvolta in una macchina implacabile, di cui per esempio nessuno sa che non sono mai mancati i soldi a Pompei. Quando crollavano i muri, il sovrintendente aveva in banca 30 milioni di euro che non spendeva. Ma quelli vogliono sempre i soldi. Quelli vogliono sempre i soldi, Vittorio. È un problema di territorio, perché Pompei, fatta al nord, funziona. Beh, questo... Pompei al nord potrebbe funzionare, ma certamente Pompei al sud è vittima della camorra, della violenza, della pigrizia, della ma non si può portare via, dai, come fai? Bisogna metterci i militari davanti. Poi, infatti dico, è una metafora, però puoi isolarla. Cioè, se tu pensi ad alcune isole felici come Ravello, come Taormina, Taormina non è Sicilia, è un'area in qualche modo isolata, come se fosse una zona nella quale tutto il male della Sicilia non arriva a contagiarla, e questo vale per Capri, vale bisogna per mettere i militari all'ingresso, bisogna fare un'operazione naturalmente impossibile, ma la mia è una dichiarazione paradossale. Certo, è che non la risolverai mai, perché non si risolve con i soldi, perché i soldi non mancano, quindi è una balla la questione dei soldi. A me sembra estremamente lucido stasera Sgarbi, molto lucido, una bellissima traffico, torniamo subito. Traffico. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. La Zanzara. Le zanzare di casa. Siamo qui, la Zanzara di questa sera con Vittorio Sgarbi in apertura, 800 24 00 24. Vittorio? Dimmi. Senti, ma la Santanchella voteresti? Sì, naturalmente. Parenzo prima si è scandalizzato perché nel 2008 aveva fatto delle dichiarazioni un po' fascistoidi, ha detto che ha ragione quel deputato del PD che dice che non la voterebbe. È inadatta a quel ruolo, perché è divisiva la Santanchella. Ma se stanno con Berlusconi... Non ha torto Parenzo, non voterei la Santanchella perché la Santanchella è un esponente di una fazione, di una parte talmente esplicita che non può garantire. D'altra parte però possiamo ricordare che fu vicepresidente del Senato anche la ragazza del cerchio magico di Bossi, come si chiamava quella, la Rosi Mauro, per cui... la Rosi Mauro che ho visto qua sotto la... no, devi valutare che è stata vicepresidente del Senato Rosi Mauro, dai su la Santa... Dico, no, ma o tu stabilisci che sono quote che vengono ripartite dai partiti al di là della capacità, oppure se è una posizione di garanzia, certo. Vabbè, a te non Lucci... ti piace la Santa Cagna, no, perché che è divisiva, è una donna divisiva, è una donna che... Ma che divisiva, ma che sono questi ragionamenti da politicamente corretti, la donna divisiva, ma che cazzo c'è? Avete ragione entrambi, però non è così facile votare la Santanchè. Può darsi che è arrivata a quel posto sulla neutralizzi, cioè ne mette in evidenza le funzioni mediatiche. Scusami Vittorio, lei è sempre stato orgoglioso di non essere mai andata con Berlusconi? Vittorio? Vabbè, Angela dalla provincia di Agrigento, sempre dai. Terbo, è sempre in movimento, professore. Angela, provincia di Agrigento, sì, buonasera, dica. Buonasera. Intanto volevo fare complimenti al signor Parenzo per la sua trasmissione. Vabbè, non ce ne portiamo, non ce ne frega niente, dai. Poverino. Vabbè. Sì, ma non è la trasmissione dei complimenti, delle cose così, questa qua, lei deve su, Angela, dai, deve ma non deve insultare, ma chi se ne frega, su. Voleva parlare dell'Egitto, lei, dai. Ma scusi, volevo fare un complimento perché ma mi piace. Ma ce ne sbattiamo dei complimenti, anche la trasmissione, ce ne sbattiamo. Ogni tanto, va bene. Su, dai, quando? Avanti. Poi volevo intervenire a proposito della trasmissione, quando Aldo Bussi comunque ha fatto quella critica alla signora. Comunque l'ho offesa, non capisco come lei fa, signor Crugiano, a difendere il signor Bussi. Perché in questo caso ha fatto una battuta, Bussi fa di peggio, in questo caso ha fatto semplicemente una battuta. Poi ovviamente il conduttore di una trasmissione su Rai 3 è obbligato a dire sì, scusa ma a tutti. In qualsiasi contesto. Stai tranquillo, è obbligato a dire scusa a tutti così perché... Per educazione. Senza nemmeno crederci, ma l'educazione non c'è no, niente. No, proprio per educazione. Va bene, non siamo qui a fare quando una discussione su Bussi, anche qui lo Mario faccio. Da Cesena, per buonasera. Educazione, quando uno sì, esagera, dico che uno esagera. È capitato in una, evidentemente negli ultimi 3 anni eri altrove, quindi non c'è nessuna educazione. Mario da Cesena, beh, come no, un po' di buon gusto c'è, sì, un certo sì, punto. Ma evidentemente sei da un'altra parte. Mario da Cesena, hai vissuto in un mondo surreale che non, no, che c'è un asticella che rinneghi, benissimo. Ma Mario no, da Cesena, ma voglio dire, non è sempre Mario da Cesena. Buonasera. Pronto? Dica. Pronto? Sì, dica. Allora, mi sente? Le ho detto a dottor Parenzo. Ma Sgarbi c'è o no? È tornato o no? Ah, Vittorio, ci sei? Sono qua. Senti, ma non ho capito, la Santanchè si picca del fatto di non essere mai andata da Berlusconi? Come? Cioè di essere una di quelle che non l'ha mai data a Berlusconi, ha detto più volte. Non l'ha mai no? data, vai, vai. Sai un esempio classico da cui ho cominciato la mia difesa di Berlusconi su questa materia? Te la ricordi la vincitrice di Pupi e Supo e Secchione, come si chiamava? Quella Francesca Cipriani. Sì. Questa è andata una volta, una sola sera, gli dà del lei, sì. Non è mai più tornata, hanno scritto sul giornale, prima... di prostituirsi la Cipriani si consulta con Mora. Da lì ho capito, conoscendola perfettamente, che anche se sembra un fumetto o una caricatura, era un modo per sputare una persona. Ora la Santanchè è andata come tutte le altre, magari a colazione invece che a cena, ma non appartiene a quelle che hanno deciso di fare la scelta. Io sono, e lo so perché lo rappresento, per la separazione delle carriere. Chi fa la troia non deve fare il ministro. Allora, San Pacchia appartiene alla carriera ministeriale, per cui non gliela data, ma la confusione deriva dal momento in cui lui non sa che l'una non può fare l'altro. L'errore di Berlusconi è la non separazione delle carriere. Nel caso specifico può essere una che è disponibile a fare attività sessuale e non deve diventare, quella è la vera concussione, far diventare parlamentare, ministro, consigliere regionale una che è stata letto con lui. Senti, oggi un leghista, pigliando in giro SEL, il partito di Vendola, l'ha chiamato sodomia sinistra, sodomia libertà. Sì, aggressivo, però la rivendicazione ormai della sessualità omosessuale deve comportare anche la battuta. Come dice un eterosessuale che è una puttana, puoi dire a un omosessuale che è un sodomita, cioè si tratta di, come dire, la normalizzazione comporta anche la caricatura. Vabbè, ma sodomita che c'è? Ma che sono questi termini? Sodomia, sodomita? Dai, però veramente, e poi in un'aula di Parlamento, su. Ma vai per Parlamento, ormai è un casino tale. Comunque, senti, Grillo, ma Forza Italia affidata alla Santanchè, come la vedi? La vedo destinata a un declino inevitabile. D'altra parte lui, dopo più di un anno, mi ha ascoltato su un passaggio fraseologico. Il Popolo della Libertà non lo devi cancellare, deve diventare una denominazione, come dire, di categoria. Cioè il Popolo della Libertà è fatto di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia, e lui adesso sta facendo questo che vuole fare, quello che vuole fare questo. Pezzi. Cioè il Popolo della Libertà deve essere il nome di quelli che votano quell'area, che hanno però le loro case. Purtroppo le case non ci sono più, perché soltanto dovrebbero diventare Forza Italia, Fratelli d'Italia, che vale il 2%, Samori, che fa ridere i polli, e la Lega. Complessivamente non arrivano al 20%, quindi è una... T'eri pure messo insieme a Samori? L'avevi fatto l'accordo. L'ho lanciato io, non mi sono mai messo con lui. Ma Renzi, scusa, Renzi che ha chiuso Ponte Vecchio per 100.000 euro, io lo trovo una cosa incredibile, 100.000 euro, ma alla Ferrari doveva chiedere 1 milione di euro, non 100.000 euro. Sì, ha chiesto poco, però l'idea in sé di tenere chiusa un'area è non giusta in astratto, ma se così, anche quando riparano le strade le chiudono, se prendi 300.000 euro. Ho capito, sì, però qui, ma 100.000 euro, dai, ma è un monumento conosciuto nel mondo. Ponte no? Vecchio, 100.000 euro, chiuso dalle 17 alle 23, ma chiedi 1 milione di euro, 600.000 euro. Puoi chiedere 400.000 euro, questo è giusto. Però dico, puoi prendere in un modo o nell'altro, nel modo di Parenzo che è corretto, e anche nel modo che se anche sta chiuso per 4 ore, come quando chiudi una piazza per uno spettacolo, anche Piazza dei Miracoli viene chiusa per fare degli spettacoli. Cioè la chiusura di un luogo non corrisponde necessariamente a una mortificazione dello stesso, perché la ragione di Stato economica può d'accordo, essere... D'accordo, però deve essere una cosa che conviene, ma 100.000 euro che ci paghi per il Comune, e Nocciolini poi tra l'altro... Ha pure detto una cosa incredibile, a un certo punto ha detto che mi servivano i soldi per i disabili, non potevo prenderli da quella parte lì, una cosa assurda. Per qualunque cosa gli servano, se è una cifra congrua è giusto, è legittimo farlo. Poi naturalmente c'è anche il ragionamento di chi dice non si può dare una cosa di tutti, soprattutto se è una strada aperta a tutte le ore, a qualcuno per privatizzarla. Guarda che c'è qualcuno che ti critica su questa storia di Napoli, sentiamo Sergio. Sergio? Sergio? Garbi che è un imbecille. Perché è un imbecille? È semplicemente un imbecille, perché Napoli è una terra millenaria di cultura che lui se la può sognare e non si deve permettere, si deve solo sciacquare la bocca prima di parlare della città di Napoli. Noi siamo i primi a combattere contro la camorra e la criminalità organizzata. Ma perché un imbecille? Perché parla di Napoli in questi termini, che Pompei non esiste, che deve essere tolta dalla città di Napoli, militarizzata, ma che cosa vuol dire? Non sa niente di Napoli lei, vada a studiare! Io sono napoletano, imbecille, e sono 34 anni che campo nella mia città, e difendo la mia città dalla criminalità organizzata. Torna a nord a coltivare le patate, e a pascolare le pecorelle, è chiaro? Non ti azzardare mai più! Napoli è una città millenaria di cultura, è chiaro? Cretino! Eccolo qua, solo questo da fare, giustamente anche voi lo invitate in trasmissione perché sa fare il buffone, solo il buffone sa fare, e viene invitato alle televisioni, alle radio solo perché sa fare il buffone. Sì, e a me fa pure piacere sentirlo perché mi faccio due risate, a meno che non parla della mia città. Allora a quel punto mi incazzo. Non sei mai stato Sant'Angelo Nilo, non sai cosa c'è dentro, vai a studiare! Non sai cosa c'è? Tu sai che c'è Donatello lì dentro? Fallo vedere! Studia! Ignorante! Altro che... La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché... che affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a disandare, mi son messo. Ma dov'è finito quello di prima? L'ascoltatore di Napoli di prima, me lo richiamate per favore, l'ascoltatore di Napoli che se la prendeva lo Sgarbi, richiamatemelo un attimo. E Sgarbi che chiamate adesso? Adesso recuperiamo tutto. Carlo da Padova, buonasera Carlo. Buonasera Crociani, finalmente riesco a parlare con voi. Niente, io sono uno dei tanti che sono proprio stufo, mi sono proprio rotto le palle di questa situazione. Anzi, uno dei della maggioranza degli italiani. Ma quale situazione? Scusi, quale situazione? La situazione che parlate di donne di Berlusconi, parlate, non voi, anzi voi fate bene perché così ci fate divertire ed è giusto che affrontiate tutti gli argomenti. Il fatto che questi politici ci si concentrino su cose che non sono realmente importanti. Loro sa cosa devono fare, Crociani? Uno, subito, devono chiudersi in Parlamento e rimanerci finché non hanno cambiato la legge elettorale. Dopo guardi, possono parlare guardi, anche delle mignotte di Berlusconi. Guardi però, che il problema non mi pare la legge, il problema impellente, se ci sono poi problemi impellenti, e sicuramente ci sono, non mi sembra la legge elettorale, caro. No, caro. lo sa perché si sbaglia, Crociani. Dai, si sbaglia su, perché, non diciamo stupidaggini, no, si sbaglia perché se noi eleggiamo un partito che poi si sceglie le persone, tra cui i suoi dipendenti e i suoi avvocati, non le sembra assurdo che in un paese democratico il Presidente del Consiglio elegga tra le sue file il suo avvocato? Ma questo signor avvocato sì, pagato ma dal non è una roba Consiglio. Nuova questa, ma lei lo scopre adesso, scusi un attimo, no, Carlo, lei lo scopre adesso, ma lo quando scopro, lo scopre? È dal 94 che Berlusconi, più o meno dal 96, non mi ricordo che Ghedini è in Parlamento, è Longo pure. Ma, lei scusi, adesso ma se ne esce dicendo il problema sono gli avvocati di Berlusconi eletti in Parlamento, aspetti, ma su aspetti, Carlo, aspetti, dai. Io ne esco da 10 anni, anzi io le dico anche una cosa in più, io sarei una persona che voterebbe a destra, sa perché non voto a destra? Ma non voto a destra perché c'è Berlusconi, vabbè, d'accordo. Non è solo perché c'è Berlusconi, semplicemente perché non vengono più portati avanti determinati valori, determinate cose che dovrebbero essere portati avanti indipendentemente dalla classe politica. Io faccio un altro esempio, se mi permette. Ho sentito una volta un'intervista di Arnold Schwarzenegger, visto che possiamo, mi permetto di dire questo. Lui disse una volta, di Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, gli fecero l'intervista ex governatore della California, o attuale, mi dissero, ma perché lei ha approvato questa legge che in effetti non è proprio una legge da conservatore, che l'ho provata perché appunto la perché sono la maggioranza delle persone. Ci sono dei casi e delle situazioni in cui la stragrande maggioranza delle persone vuole una determinata cosa. Ma per esempio, vi faccio un esempio. Un esempio sono i tagli alla spesa pubblica, un altro esempio è sempre la legge elettorale. Lei dice che non è importante, però non ho detto che non è importante, non mi sembra la priorità. Sergio da Napoli, allora Sergio, che voleva da Sgarbi? Sergio? Eccoci, mi sente? Sì, cosa voleva da Sgarbi prima? No, io volevo semplicemente dire che è un imbecille. Ma ha fatto una provocazione, su, anch'io non l'ho attaccato questa volta, non si può essere così pretestuosi. Ha detto che se Pompei fosse al nord sicuramente non ci sarebbe quel degrado e non è molto distante dalla realtà. Parenzo, non mi faccia il Veneto, su, la differenza su non è tra sud e nord. Beh, anche un po', un'antichia, un tantinello. Ma mi vuoi davvero dire che al sud ci ma sono persone ma che stanno no gestire meno rispetto al nord? Io faccio dirigente d'azienda e sono meridionale e sono fiero. Ma che no, ma non dice Sergio, non si tratta della fierezza di essere meridionali, si tratta di dire le cose come stanno. Cioè, e su questo ha ragione Sgarbi. Vittorio, ci sei? Sì, ci sono, ma non si può parlare con l'idea dell'imbecille senza aver letto una sola cosa che tu hai scritto. Io non ho mai parlato male di Napoli, ma il caso dell'immondizia a Napoli è diverso dal caso dell'immondizia a Milano, o non si può dire? O è un'offesa alla sensibilità del dirigente d'azienda che non è mai stato a Sant'Angelo a Nilo e non sa neanche dov'è? Io conosco tutte le chiese di Napoli, metà sono chiuse, con i muri davanti alle porte. Allora questo non accade a Bergamo, questo non accade a Milano, io non sono leghista, sono stato sindaco in Sicilia, conosco benissimo la situazione, dico, per Pompei non c'è speranza neanche con i soldi. Il problema è che Pompei è al centro di un'area in cui il degrado è un degrado culturale, psicologico, morale. E allora, se tu avessi, ho parlato dell'area di Bergamo, un monumento che viene dalla Asia Minore, ce l'hai a Berlino, allora se avessi Pompei nel nord avresti un problema diverso. Hai capito, Sergio, perché ha dato dell'imbecille a Sgarbi? Sergio, sì. Perché ha dato dell'imbecille a Sgarbi? Perché è una persona maleducata. perché non si, no, no, perché non si può permettere di parlare così di una città come Napoli, che è talmente variegata che se lui la conoscesse probabilmente lo capirebbe. Cosa c'è a Capodimonte? Allora io vorrei dire a Sgarbi che vive a Napoli, gli potrei dire cosa c'è a Capodimonte, cultura, tra cui anche la cultura del pornacchio alla De Filippo. Lui immagino che cosa c'è a Capodimonte, chiede Sgarbi, il tuo principale museo, un quadro, me lo dica. Cosa c'è a Capodimonte? Dei quadri di Capodimonte, del museo di Capodimonte, ma davvero stiamo parlando di questo? Cosa c'è? Stiamo parlando di come si tiene una città. Sapere cosa c'è a Napoli, sapere cosa c'è nelle chiese, nei musei, nelle case. Ma io vivo a Napoli e sono 34 anni che campo a Napoli, e tu non ti permetti di parlare di Napoli con un quadro più o un quadro meno? Non è quella la realtà. Scendi per strada, non fare il cuffone alle trasmissioni, scendi anche per strada. La vita reale è una con tanti problemi e non si può permettere un'altra persona di parlare di come lei, di parlare di quello che non sa. A parlare male ci porta anche la vostra monnezza tossica. Ma vi rendete conto? Ma quale monnezza tossica portata dal nord? Ancora questa storia, basta. Le ultime notizie di qualche giorno fa che ci hanno messo altra monnezza tossica, sì, e quelli, sì, che se la ridevano. Senta, Sergio, non ha parlato di questo Sgarbi. Sgarbi ha parlato di una, ha fatto una provocazione dicendo che il problema di Pompei è la Campania. Io sono d'accordo con Sgarbi. È la Campania il problema di Pompei. Siete due imbecilli. Cioè, ma sarà lei imbecille. Non è il problema della Campania o della città di Napoli. È un problema organizzativo. Sì, sì, non abbiamo i soldi, i mezzi e probabilmente le persone al posto giusto per fare queste cose. Il problema è molto più ampio. Sergio, senta una cosa, dov'è la cappella, che cosa? Pontano, dov'è la cappella Pontano? Dov'è, Sergio? Non sa niente, non sa nulla. La cappella di che? La cappella Pontano. La cappella Pontano. La cappella Pontano, ma Sergio, la vuoi finire? Ma non lo sa, parlando di nozionistica quando la vita reale è altra. Andare lei a cagare le sue stronzate. Ma puoi andare solo in televisione a fare la televendita dei quadri, quello che ti puoi fare, perché per la vita reale non sei niente. L'arte è mercato, imbecille. Sto parlando della storia. La vita reale è altra, la cultura è altro. Ma lo sa dov'è sta cappella o no? Ma scusi, mi può spiegare, ascoltatore, perché Giotto a Padova non crolla a pezzi? Perché Giotto a Padova non crolla a pezzi? Perché? Ma evidentemente ci sono dei soldi e delle persone che lo fanno funzionare meglio. Ma non dipende dal sud o dal nord, dipende dalle persone che si mettono e dai soldi che gli si dedicano. È una pura legge economica. Non parliamo di cultura. Un attimo, stia zitto, Sergio, Sgarbi. Pompei ha molti più soldi degli scrovegni, molti di più. 30 milioni di euro che non hanno spesi. D'altra parte, non è colpa mia se c'hanno le magistris, ce l'hanno loro. Quindi le persone di cui parla, se le votate lui, l'imbecille cronico, dirigente d'azienda del cazzo, quello è lui. Una capra totale. Sergio, non sa, dov'è? Niente, non però sa lei cosa sia Capodimonte, non sa nulla, non c'è mai stato. Parla la realtà dei problemi è perché vengono messe delle persone nei punti chiave che non sanno fare un cazzo. E senza soldi per la maggior parte dei casi. Non è vero, il sovrintendente di uniamo i soldi e uniamo le persone giuste, le cose si fanno bene. Sì, ma comunque lei non sa governare quelle cose. Lei non sa delle cose, Sergio, lei non sa delle cose fondamentali di Napoli, diciamo la verità. Ma tante cose io non so della mia città. Allora, che parla? Ma voglio dire, Sgarbi non c'è manco mai stato a Napoli, ma di che parliamo? Ha detto che non ci sei mai stato a Napoli, Vittorio. Io sono stato a Napoli mille volte, conosco tutti i quadri, mille volte, intanto mi sono chiuso un pernacchio, voglio dire. Dov'è Donatello a Napoli? Non lo sa. Dov'è Giotto a Napoli? Non lo sa. Giotto a Napoli, lui non sa dov'è, perché non sa niente. Ma di cosa mi stai parlando? Io ti sto parlando dei problemi della città di Napoli. Questo è. Che tu hai detto che vuoi militarizzare Pompei per non far arrivare la città di Napoli. Pompei, ma di che parliamo? Voglio militarizzare Pompei, ma di che parliamo? Comunque isolare. E tu mi stai parlando di un quadro di più o un quadro di meno? Ma scendi per strada, stai in mezzo alla gente. Di che parli? Parliamo dei problemi della città di Napoli o parliamo di un quadro? Parliamo di quadro, ora parla della vendita del televisore, fai quello che vuoi. Ma non ci permettere più di parlare della moralità di 3 milioni di abitanti della città di Napoli. Ignoranti non te lo vuoi permettere. Quella è la moralizzazione di Napoli. Io mi sudo 7 camicie per lottare contro la criminalità organizzata e tu mi vieni a fare la morale a me. Ma come ti permetti? Non faccio la morale, io non ti ho detto di tu, ero dell'imbecille, ma ti do del coglione e il cornuto. È ignorante, pure cornuto, ma raffa la televendita, buffone. Ma non hai mai visto, ma io lo capisco che se mi dà delle trasmissioni per far ridere, ma non me lo ingannano. Ma il buffone, ci ridiamo tutti quanti, va bene. E tu fai il cornuto sulla zona, sei tu. Va bene, ciao Vittorio, grazie Sergio, basta, Sergio, sì. Vittorio, TG3. Che gli ha detto? Buonasera TG3. A tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Caos in Egitto, blindati in strada, elicotteri su piazza Tahrir, il governo in atto, il golpe, morse agli arresti con i leader dei Fratelli Musulmani. Il Consiglio Supremo di Difesa, il Parlamento non ha potere di veto sugli F-35, per la Costituzione spetta al governo decidere. La Corte Costituzionale, la FIOM, ha diritto ad essere rappresentata negli impianti Fiat anche se non ha firmato gli accordi. Dall'Europa sia più flessibilità per i conti dell'Italia, Letta ce l'abbiamo fatta, ora più spazio per crescita ed occupazione. In arrivo sconti fiscali per l'acquisto di elettrodomestici, condizionatori e caldaie, valgono per chi ristruttura l'abitazione. Alfano, la maggioranza ha bisogno di stringere i bulloni, sondaggio del TG3 su primarie del PD, la leadership e intenzione di voto. Tinture per capelli, necrologio e sigarette tra i rimborsi chiesti da alcuni consiglieri regionali campani. 50 in procura, non il governatore. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte. Siamo qui, 19:28, la Zanzara, Mara, provincia di Verona, ci siamo sempre noi, prima hanno battagliato Sergio da Napoli e Vittorio Sgarbi come leoni. Mara. Buonasera Cruciani. Dica. Niente, sono Mara, io volevo riferirmi a questo Buonanno, che io non ho il piacere di conoscere. Sì, Gianluca Buonanno. Che è vituperato da destra, da sinistra e da centro. Parole a destra e a sinistra. Vabbè, allora? Io quest'estate ho avuto l'occasione di trovare dei miei amici in questa cittadina che si chiama Varallo Sesia. Ma lei che cosa è andata a fare dalla provincia di Verona a Varallo Sesia? Sono andata a trovare detto degli con amici. Tutto il rispetto. Degli amici a Varallo Sesia, benissimo. Che tra l'altro questo signor Buonanno non ha abita allora? Lontano da loro, perché è da realtà piccolina quella sì, lì. Sì, beh, sì. Io ho trovato una cittadina che credevo di essere in Alto Adige. Ma questo che vuol dire? Questo non toglie, diciamo. Se uno dice una strozzata può pure amministrare bene la città. Anche Hitler teneva benissimo i giardini, le case in Germania, tutti precisi, però era Hitler. Per terra, adesso non si offenda Buonanno per il paragone, però così, volendo fare proprio un paradosso, cioè i regimi per esempio tenevano benissimo le aiuole, i giardini, era tutto pulito, tranquillo, eccetera. Borsa, torniamo subito. La Zanzara. Ma risentiamolo il protagonista della giornata, l'autore di una performance che è presente su tutti i siti, che sta spopolando. Lei parla del presidente Morsi, presidente egiziano, no, che non c'entra niente l'Egitto. Il golpe. No, ma non c'entra niente, quelle sono cose interessanti. Il mondo parla del golpe in Egitto e lui fa risentire il signor Goodhess, il signor Buonanno. Ma è una cosa scandalosa, c'è il signor Tramballi, il signor Ugo Tramballi del Sole 24 Hours, che dall'Egitto, dal Cairo, ci dettaglia minuto dopo minuto di questo dramma epocale che fa esplodere il Medio Oriente. E lui cosa fa? Fa sentire Buonanno, il signor Buonanno, Goodhess. Nella sostanza, chi come il partito della sinistra libertà, siccome hanno altre idee molto più importanti secondo loro di quello che riguarda la sicurezza dei cittadini, per loro è importante vedere se c'è il matrimonio tra lo stesso sesso, se c'è l'adozione tra lo stesso sesso, per cui invece di chiamarsi sinistra libertà si chiamassero sodomia e libertà. Perché no, nella cortesemente, sostanza, deputato. Ma perché dice cortesemente? Perché il presidente dell'aula dice no cortesemente? Cioè, di fronte a un'offesa da osteria come no, quella. Ma ha fatto una battuta, no, dai! Onorevole Buonanno, cortesemente! Ma come cortesemente? Stai zitto, gli doveva dire. Volgare. Guido da Catania, buonasera, 800240024. Questa è la Zanzara Show di questa sera. Allora, intanto i Fratelli Musulmani dicono che reagiremo al aggiornamento tutta la sera oggi. Ma perché darò non vai a Radio Popolare? Vai a Radio Popolare. Stasera vai a Radio Popolare, Radio 3. No, Radio 1, aggiornamenti in continuazione. Vai, Radio 1, ti faccio scegliere Radio 1, sull'Egitto. Radio Popolare, Radio 3, Radio sul Radicale. Sul golpe dei militari in Egitto. Farò aggiornamenti, ci collegheremo con Lucio Caracciolo. Pannella, è vero che vuole candidare il presidente Morsi? Morsi, che è stato radicale del partito transnazionale. Ma chi l'ha detto, Pannella? stai zitto. Abbiamo fatto un processo di democratizzazione e ora diciamo fratelli sì, musulmani no, ma subito Iraq libero, Tibet libero, Falun Gong. 4 ore di diretta questo. In radio radicale, con diretta dall'Egitto, dal Cairo, per raccontare come i faraoni, loro, Cheope, Chefre e anche Micerino, c'era la piramide più piccola, dove i faraoni lottavano contro la partitocrazia del potere dei faraoni. Ma non è vero. Radicali, i faraoni, noi abbiamo detto faraoni via subito dall'Egitto, via la consulta della mafia partitocratica dei faraoni che avevano costruito piramidi di ingiustizia. Piramidi di ingiustizia contro la libertà. Noi abbiamo detto, noi radicali all'epoca con i faraoni, con Cleopatra, abbiamo detto liberate, ma non c'era liberate subito i faraoni, l'Egitto, ma... i Falun Gong che sono andati poi. Vabbè, adesso, stai zitto? Ok, hai fatto il schiattino. Vabbè, grazie. Grazie a Pannella di questa analisi, ovviamente, da parte radicale della situazione in Egitto. Non si è capito granché. Comunque Guido da Catania, buonasera. Tu hai capito, Pannella? Buonasera, no, sì, sono Guido, mi hai lasciato qua un'ora e mezza. Guarda, mi sono divertito tantissimo oggi. Prima perché Bonanno è fortissimo, è una specie di nazional popolare di quelli proprio ruspanti. E quella battuta sulla sodomia e libertà è fortissima. Beh, eccezionale, eccezionale, eccezionale. È eccezionale, un grande uomo di cabaret, un grande uomo di spettacolo. Non c'è tutto, può fare, tranne che il politico, però lo fa, che possiamo fare? Però così ti fai divertire, ci fa divertire pure a noi. E che fa? Dopo una giornata di casini, finalmente, non quello politico. Sì, ma Parenzo vorrebbe la riflessione su quello che accade al Cairo. Tra la riflessione. Poco ci colleghiamo con Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Ma non è vero, ma manco per analizzare la situazione. Hai parlato finora. Io volevo dire una cosa molto semplice. Ci dica, sì. No, allora? Gay, poverini, ci sono due categorie di gay. Sì. Quelli veri e quelli finti. Sì. Quelli veri. Sì. Hanno delle deformità, poverini. Sono. Cioè, che se, non ho capito che c'entra. Non e ho poi capito. Ci sono quelli finti che hanno un problema psichico. Ecco, io sono dell'opinione che sono bravissimi nelle altre cose. Abbiamo dei grandi gay come Leonardo da Vinci, è stato la più grande genio. Ma non ho capito, mondo. Lei sostiene che sono malati. Lei sostiene che sono malati. Hanno un problema psichico. Hai capito, Lorenzo? Non c'è dubbio. Ma lo dice con questa prosopopea. Ma dice. Sposano per procreare. Ma come si permette? Come dice non c'è andare dubbio? Avanti nella specie, la specie umana deve andare avanti e ci vuole un uomo e una donna che copulano. Dopo la copula nasce il bimbo e poi successivamente viene perpetuata la specie. Che questo tristezza, dice la natura. Che tristezza. Quindi sono contro natura, quindi è un problema, un errore psichico. C'è ancora però siccome è solo quello, non è che hanno dei problemi di altro genere. Io li stimo, li voglio bene, ne conosco tanti. Stiamo bene insieme, non ho alcun problema. Però sono malati. Così. Però sono malati, problema vabbè. Psichico, sì. Problema psichico. In questo momento elicotteri su Piazza Tahir. Però scusami, io sarò politicamente scorretto. Ma qui quelli finti hanno una devianza psichica. Gli altri no, poverini, hanno. Ma quale devianza psichica? Ma ce l'ha lei la devianza psichica, Guido, su, non mi faccia parlare oggi, non mi faccia parlare, dai, su, che già devo frenare corretto, questo qua che vorrebbe. Come ma che politicamente corretto? Cruciani, politicamente corretto. Ma che c'entra politicamente corretto? Ah, sì, perché se tu dici che io. Ma ragione, non è che uno deve essere politicamente corretto. Per essere. Te menano, ti ma mandano che... via. Ma va chi? Bene, se io ciao, dico che cosa? Se io, dico... io mi diverto tantissimo a sentirti. Guido, se io dico cosa mi mandano via, non ho capito. Se dici che io. Sto dicendo una cosa che ha una. Ma figuriamoci, non è che per essere politicamente scorretti bisogna dire che sono malati gli omosessuali. Su Guido, non diciamo ho detto che sono malati. Come no? Tagli. Che hanno io una malattia psichica. Una piccola deviazione psichica che per il resto sono perfetti da un punto di vista cerebrale. Ma si rende conto di. Vabbè, ma lei a Catania non ha ricoverato. Ma il corso della natura che ma ha creato lei una donna per copulare lei e a per Catania la specie. Lei a Catania non l'ha ricoverata nessuno fino adesso? No, io spero che non ti ricoverano a te da qualche parte perché stai cercando di tu stai cercando di fare dei balletti tu in questa faccenda. Guarda, dei balletti. Io sono più vecchio di te, ascoltami. Ma quale balletti? Se tu dici che io ho ragione... Ma tu non hai ragione, hai torto, punto. Ma non è vero, non è vero. E chiudi con tutti, perché te menano. Ma chi menano? Io posso dire questo, ma tu no. Vabbè, Pina dalla provincia di Roma. Ciao Guido, Pina, provincia di Roma. Buonasera Lorenzo, buonasera Cruciani. Vada. Allora, no, volevo semplicemente sapere che ruolo ha una vicepresidente della Camera, perché io sinceramente nella mia ignoranza... Ma ogni tanto Guida, governa i lavori dell'aula quando non c'è il presidente, partecipa alla conferenza dei capigruppo. Così importante, così decisionale, così definitiva questa carica che c'è chi... Guardi, la vuole sono cariche di cui non si occupa mai nessuno. Adesso c'è una situazione che è venuta a crearsi perché c'è la Santanchè di mezzo, questa è la realtà, altrimenti non gliene frega niente a nessuno di chi viene eletto presidente della Camera. Qualcuno l'ha fatta diventare una questione politica, una parte del PDL e una parte del Partito Democratico. Oggi c'è una deputata, credo del Partito Democratico, la Pinotti, non so se sia in al Senato oppure alla Camera, che ha detto: io voterei tranquillamente la Santanchè. Ci sono persone che voterebbero tranquillamente la Santanchè, però è una figura divisiva. Se, ancora con sta storia, ma chi se ne frega, fallo dire a un conduttore divisiva, della Rai, divisiva, una cosa divisiva. Che vuol dire divisiva? Su, come divisivo... stanno al governo, il Partito Democratico è al governo con Berlusconi, con Verdini e con altri, dunque se gli fanno schifo Berlusconi eccetera gli dovrebbe far schifo pure la Santanchè. Beh, ma infatti nessuno ha proposto a Verdini di fare il ministro, ma oppure che, di fare il vicepresidente, vice... ma non ma c'entra niente. Nessuno ha ci sono alcune figure sono del PDL sono divisive, che sono al centro di, come dire, di più al centro di polemiche, no? Invece Gianfranco da Roma. Della signora Lorenzin, nessuno potrebbe dire male, della signora De Girolamo, nessuno può dire che è una figura divisiva, ipocrisie. Ma no, perché la politica è fatta anche di figure istituzionali. Gianfranco da Roma, buonasera. Pronto, eccomi, Cruciani. Ciao, vedi, Cicchitto, ministro della giustizia. Non voglio essere protagonista come gli altri che intervengono. Volevo solamente dire, per quanto ha affermato Sgarbi, dice la Santanchè è indicata per fare il ministro perché non è una troia, perché dice se una è troia non può fare il ministro, quantomeno lui ritengo voglia dire anche non può fare politica. Tenuto conto che negli ultimi anni sono state accusate tante delle protagoniste femminili dei governi Berlusconi accusate. Non dico troie, però in ogni caso un po' sospette, l'intercettazione ha rivelato determinate cose. Volevo sapere cosa pensava allora Sgarbi della Carfagna e di altri personaggi. Adesso non c'è, per cui non può ministro, adesso politica. Non c'è, dunque non può rispondere, Vabbè, Luciano, pure... pronto? Ma io non ho capito, Gianfranco, qual è la domanda? Sì, ma siccome sono state sempre voci, anche Parenzo potrebbe rispondere come fosse Sgarbi, sicuramente sarebbe molto più simpatico lui. Va bene, Gianfranco, grazie. Luciano da Firenze. Buongiorno, buonasera Luciani, ma ritengo che sia stato accantonato troppo velocemente quel suo ascoltatore di Napoli, il quale portava un discorso campanilistico. Non l'abbiamo accantonato, è stato un quarto d'ora a battagliare con Sgarbi, sì, non mi pare proprio dico, accantonato. Però la soluzione non c'è stata, io ne avrei una. Qual è? E cioè la divisione del paese in 25 stati indipendenti e ciascuno si arrangia per conto proprio. Sì. Come premio iniziale d'avviamento, saldare il deficit di quelli più impasticciati e comunque scontenti. Cioè 25 stati indipendenti vuole fare lei? Sì, sì. Cioè sì, non sì, più l'indipendenza del nord, l'indipendenza di 25 stati. Beh, diciamo che è proprio la direzione verso cui si va, insomma. 25 stati indipendenti, cioè siamo al totale delirio, insomma, no? Una mia modo di notare quello che sta succedendo, insomma, perché se a questo livello siamo ancora a discutere di Pompei in termini campanilistici, è la fine proprio. Vabbè. Alessandro da Agrigento. Buonasera Cruciani. Buonasera Parenzo, una piccola a proposito proprio di Pompei, mi occupo di restauri, volevo semplicemente fare una precisione. Da 20 anni diciamo faccio la spola tra la Toscana e la Sicilia e lavoro in entrambi i posti e devo essere sincero, purtroppo bisogna dare merito anche a Sgarbi per quello che dice. Problemi di natura ambientale, non che non esistano i bravi funzionari dello Stato ovunque, a Napoli come in Toscana, come in tutta Italia, però le dicevo, problemi di natura ambientale e altre serie di problematiche che sicuramente ci sono più nel meridione che al nord, portano a far sì che probabilmente le cose funzionano meglio agli scrovegni rispetto a Pompei. Appunto. Ci sono delle piccole oasi in cui tutto funziona bene. Vabbè, dunque, chissà come mai. No, e questo dicevo. Secondo me le cose funzionano meglio a nord. Così, se Pompei fosse a nord, funzionerebbe tutta a meraviglia, giusto? In termini sono dati di fatto che funzionano meglio al nord. Gli scrovegni sono tenuti meglio. Il cenacolo a Milano è meglio di altri posti di Pompei o di Paestum. Il problema è ci sono isole felici in cui tutto viene mantenuto bene. Un esempio, posso portare il parco della Valle dei Templi di Agrigento, in cui ho avuto ma anche modo di lavorare, è tenuto in maniera magnifica. Però il problema non è questo. Le dico semplicemente che problemi di natura ambientale, di natura di etica del lavoro portano anche alle volte ad avere dei problemi maggiori in una parte d'Italia rispetto ad un'altra. E purtroppo questo, io sono meridionale, sono da Agrigento, e non possiamo nascondercelo, diciamocelo molto francamente. Grazie Alessandro, grazie. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Why don't you go home? Non mi molesti moschito. Prendi questa mano. Iva? Sì. Come stai? Ciao, buonasera, come state voi? Io sto bene. Zanicchi. Come stai? Come ti ho visto cantare? Com'è che facevi a Silvio ieri? Purtroppo, guarda, vorrei essere lì nello studio perché mi sento... Oddio, ti sento malissimo, mi sento lontano. Sono in una camera d'albergo, sono... Peccato, ti riferisci all'altro ieri? Sì, scusami, all'altro ieri, cos'è che gli rivolgevi? Quale apri quella finestra? Com'era la storia? No. Com'era? Aprite le finestre, è una canzone degli anni 50 che ha vinto il Festival di Sanremo. Io non ho cantato. Ma com'è che gli hai detto? Io ho soltanto un capoverso di Zingara, perché una signora insisteva perché io cantassi... alcuni signori, non solo una signora, che cantassi Zingaro, non era proprio il caso in quel momento lì di cantare, allora lei mi ha detto prendi questa mano Silvio, e io l'ho cantata con grande piacere. Com'era? Perché prendi eravamo lì in tanti, questa non mano, come hanno scritto, eravamo invece tantissimi per solidarietà a Silvio. Sì, vabbè, lo sappiamo, sì. E per dimostrargli tutto il nostro affetto. Ma c'erano quattro gatti, c'erano quattro gatti. Massu. No. Quattro gatti, dai, su una adunata sediziosa. Guarda, io ho fatto tante feste di piazza, ho fatto tante feste popolari. Ma quali feste? Che c'erano tantissime persone. Ma dai. Ma c'era, ho visto le immagini. Giuro. Ho visto le immagini, c'erano una cosa per un'altra. Poi dopo, quando hanno sentito e saputo che Berlusconi non sarebbe arrivato, tanti se ne sono andati. Ma no, c'erano tantissime persone. Ma è arrivata, era casa sua. Poi lo spazio non è immenso, perché è una piazzetta davanti alla villa di Berlusconi. C'è una strada. Ma com'è che hai fatto? Fammi sentire, prendi questo. Quanto com'è? Sei sciocco, però, eh? No, vabbè, ma è divertente. Ho fatto, prendi questa mano, Silvio, e tutti in coro, tutti allegri, tutti felici, speranzosi che lui... E poi ho incitato Silvio. Allegri di che gli hanno dato 7 anni? Beh, ho capito. Beh, guarda, io tutti sono allegri, per 7 anni gli hanno dato. Scherzi, tu lo sai che io sono una donna molto sincera. Ho sempre detto, e lo dico e lo ribadisco, che ho piena fiducia nella magistratura, rispetto... Ma come facevano a essere tutti felici, però, scusa? Però questa sentenza, tutto che lo dica io, lo dicono tutti, anche quelli di sinistra lo dicono. Sì. È stata una sentenza... insomma, quasi infamante, lo posso dire. Non puoi dare 7 anni a che, su che cosa? No. Su quale base? Lo sai anche tu. Conclusione di che? Berlusconi è delle persone più gentili, più carine, più educate che io abbia mai incontrato. Vabbè, anche, sai... Poi sono state anche critica verso Berlusconi, ma in questo caso io sono andata proprio per solidarietà piena a Silvio Berlusconi. Senti una cosa, ma io voglio capire, l'anno prossimo che succede al Parlamento Europeo? Ti ricandidi, no? Ah, tu pensi che abbia fatto tutta la manfrina per ricandidarmi? No, quello no. Io voglio finire bene questo mandato, è dura, è difficile, adesso io sono a Strasburgo, come ho ribadito tante volte. Prendi questa mano, Silvio, come la canto io? Prendi questa mano, Silvio, no, è buona. Deboluccio. È buona, prendi questa mano, Silvio. Troppo alta l'hai presa. Com'è? No, tu, guarda, tu puoi fare tutto tranne che cantare, ha ragione. Ma no. Debole, ma... debolissimo. Vuoi sentire la differenza? No. Debolissimo, vuoi sentire la differenza? Come la fai? Prendi questa mano, Silvio. No, Renzo. Ma c'è, no, dai, Renzo, davvero. Non dire che eravamo in pochi, perché questo non è quattro vero. Gatti, dai, quattro gatti. Eravate tanti quanti a Piazza Tahir oggi. Uguale. Aspetta, come amore, della Piazza Tahir. Io non so chi l'abbia organizzata questa cosa, però in due giorni la, sì, si è riempita una, si è riempita, guarda che la gente era lì per manifestare tutto l'amore. Scusa, ma tu che cosa faresti per cosa, Berlusconi? Cosa faresti per Berlusconi, Iva? Cosa faresti per Berlusconi tu? Ma io no, cosa farei? Dimostrerei quello che ho fatto, nel senso gli do tutta la mia solidarietà in questo caso. No, ma cosa faresti? Faresti? Sono convintissima. E io vabbè, che è innocente, d'accordo, che è innocente, va bene, questo lo sappiamo. Ma io non voglio sapere, io dico che se no, no, insomma dai, inutile ribadire quello che hanno detto tutti. Appunto, che ridicolo, appunto, che lo dai, ancora appunto, io. Dai. Non c'è nessun concusso, non c'è nessuno che ti accusa, questa Ruby dice che lei non ha avuto nessun rapporti sessuali con Berlusconi. Beh, insomma, che non c'è qualche stato cosa... Qualche... Allora, va bene, 23 che dicono tutti il falso, ma ragazzi, ma veramente mi sembra di vivere in un mondo che non è il mio, nel senso che io... Cosa io vuoi dire alla signora Boccasini? Di qualcosa... Paese, ma amo va bene, la giustizia. Ho capito, ascolta, Iva, io... l'abbiamo capito, di qualcosa alla signora Boccasini, questo l'abbiamo sentito al comizio. Ascolta, io per aver detto, no, io voglio venire lì nello studio perché così mi sembra di parlare contro un muro e non mi va bene, e voi non mi invitate più, invece io voglio venire lì e guardarti negli occhi. Io voglio dire, io ho detto una cosa, sai che io non sono molto pratica di Twitter, queste madonne, no, Facebook, ho scritto, non è stato condannato Berlusconi ma la giustizia italiana, perché in quel momento mi sentivo, apriti cielo, mi sono arrivate delle offese che poi mi fanno anche ridere, vabbè, dai, a un certo momento ho ritenuto opportuno dire calma, pace e bene. Ma che non ti frega delle offese, dai. Risposto. Ma perché non ti iscrivi? Perché non ti iscrivi all'esercito di Silvio? Ecco, manca quello, sì. Come, scusa? Perché non ti iscrivi all'esercito di Silvio? No, io non mi iscrivo all'esercito di niente. Io sono per la pace, non per gli eserciti, non per la guerra. Io sono per No, per, ma c'è l'esercito di Silvio adesso, lo sai, no? No, tu sai che sono nel PDL, eh? Sì, ma Forza Italia ho dovuto criticare, ti iscriverai a Forza Italia o no? L'ho fatto. Ti iscriverai a Forza Italia o no? Ma intanto Forza Italia non è ancora sorta. Vabbè, ma ci sarà Forza Italia su IVA. Penserò, vedremo. Io dico che comunque Berlusconi è Berlusconi, che faccia Forza Italia, che faccia PDL, che faccia il partito delle, ma dici, il nome del, non del conta, no, è importante che ci sia, dici il nome non conta, è importante che ci sia sempre lui a 80 anni, a 90 anni. Non ne ha 80 anni, beata 90, gioventù, beata gioventù, beata amore, gioventù. Ma no, ma io allargo i giovani, hai ragione tesoro, per l'amor di Dio. Comunque c'era gente che grida, i giovani, ma non ammazziamo gli anziani, non ammazziamo le persone che hanno esperienze, che comunque possono aiutare a spingere, andare avanti nel modo giusto i giovani. Certo che dobbiamo andare avanti, senti, te per esempio che sei un ragazzotto, perché non ti butti in politica? Io? Ma per carità. Ma perché no? Ma io non ho nessuna intenzione di fare politica, faccio il mio mestiere, bene o male che ma sia, lo però fai però, bene, lo fai molto per bene. Ora non ho intenzione di candidarmi da nessuna parte. Però scusami, Iva, ma tu eri stata critica con Berlusconi, le donne, le cose sconce. Più carino. Ma sì, ma certo. Ma dai, ma moralmente, ma tu non puoi condannare uno perché gli piacciono le donne, perché in casa sua fa quello che vuole. Ma che ne ha combinato? Ragazzi, di tutti, no, questo io non che ha combinato di tutti i colori con queste donne, Berlusconi? Ma che cazzo vuoi che abbia combinato? Ci sarà andata lei bene. Eh beh, ma lui nega, avrà pagato sicuramente, no? Tutti quei regali, io, dai. Io ho sempre detto che Berlusconi è generosissimo. A te non ti ha mai fatto un regalo? Che regali ti ha fatto? Che regali ti ha fatto, Berlusconi? Dico io, ragazzi, in casa sua può fare quello che vuole. L'importante è che si riesca a governare questo accidente di paese, sì, e tutti i puritani, quello che invece sono puri. A te che ti ha regalato? Non riescono a fare un cazzo di niente. Che regali hai ricevuto? Magari lui andava a letto con le donne, ma qualcosa forse poteva fare. Se gliel'avessero lasciato fare, anche questo mi pare che non abbia prodotto granché. Discutibile. Chi è che dice discutibile? Vabbè, Parenzo ormai è diventato più. Parenzo, sai che ti vedo in televisione, ma veramente cosa ti sei fatto? Qualche plastica? Perché sei dimagrito, sei bello, ti sei rifatto gli occhi. Non mi dire di no, ma perché non sei tu. Senti una cosa, Iva. Hai delle luci specialissime? Possiamo perdere. Iva, però sei bravo, Iva, mi piaci. Com'è l'inno di Forza Italia? Te lo ricordi? Guarda, io a parte che non l'ho mai cantato l'inno di Forza Italia, Forza Italia per crescere, te lo ricordi? E vai. Abbiamo tu. Dai, seguilo. Sai che io contemporaneamente ho fatto Forza Italia anche Bandiera Rossa, eh? Io canto tutto, Certo. Se mi chiedi di cantare Bandiera Rossa, la canto. Ma perché tu eri comunista una volta, no? Io comunista? Mai stato? No, io ho molta simpatia verso tanti comunisti. per esempio anche verso Parenzo, io mi è simpatico, che non è comunista, voglio bene, però. Comunista. Che però non è comunista. Come no, comunistissimo. Io ho tantissimi amici comunisti, ma anche in Parlamento qui. Ma io non sono comunista. Vengo dall'Emilia, per cui è detto tutto. Ma comunista non sono mai stata. Come fa? E Forza Italia, e siamo tantissimi. E abbiamo, ma non hai nostalgia, non sei uno di quelle sogno che nostalgia dentro. Vabbè, abbiamo la borsa, sì, la borsa. Mi fa piacere che Parenzo conosca Forza Italia. Pubblicità, ragazzi, torniamo subito. Non lo so pubblicità, se torna pubblicità. Forza Italia, ma non ha importanza. Che rimanga il PDL, l'importante è che Berlusconi, che è un che politico fa? Straordinario, rimanga sì, al suo posto, certo, che dubbio. Faccia il suo lavoro e che pubblicità, pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Scusi, c'è la Zanicchi, ma lei è vero che non ha dormito la notte per la sentenza di Berlusconi? È stata sconvolta, che ha fatto? È stata a pianto, che ha fatto? Io? Ha pianto per la sentenza con di Berlusconi. Sì. Adesso mi dai del lei, va bene, signor Cusani. No, dai, senta, in un modo... No, io non ho pianto, però veramente sono rimasta esterrefatta, devo dire no, ma la verità. Un pianterello c'è stato, una lacrima, Iva l'hai fatta, dai. No, io no, no, dai. Non si può piangere, no, per Silvia, ma giusto? Manco per niente. Manco per niente. E mi sono anche... veramente a un certo punto ho detto Dio, ma in che paese siamo? No, ma non è vabbè, questo lo dicono tutti quelli, tutti berlusconiani. Senti Iva. Questo caso specifico davvero vabbè, ma questo qua lo sappiamo, è commessa una gravissima ingiustizia. Vabbè, e questo lo sappiamo, l'hai detto mille volte, ma l'hai detto mille volte. È più puttaniero. Mi inviti lì. Ti invito. Ma dove adesso non puoi, quindi mi stava così al telefono. Che dobbiamo fare? Ma sono a Strasburgo in questo momento, perché io vengo qui e voto ed è importante che io vabbè, sia ci mancherebbe qui. Altro. C'è gente che non va però, c'è gente che non va. Scusa Iva, hai Berlusconi... visto che ieri non abbiamo votato la... Dov'è? Ma che ne so. L'immunità, le pen. Hai visto? Vabbè, pazienza. Iva, scusa un attimo, Berlusconi è più puttaniero o più statista? Sei tremendo. Dai, è più puttaniero, guarda, diciamo la verità. Secondo dai. Me... Se avesse fatto lo statista come ha corteggiato le donne, sarebbe un genio. No, no, dai. C'è da dire una cosa, che di Berlusconi purtroppo si sa vita, morte e miracoli. Io credo che tra qualche anno, tra 10 anni, tra 20 anni, sarà riconosciuto a Berlusconi davvero il valore che ha. Ed è un grande statista. Sì, punto. Grande statista. Che poi sia anche puttaniere. Vabbè, è un po' puttaniere, di la verità. Tu, cioè tu dici, parola da dirsi, ma cioè insomma, tu dici, Iva, tu dici come tu con la capacità di Berlusconi politico. E poi voglio dire, gli uomini italiani, sono quello che sono, addio, dici tu. Io addio, che insomma, gli uomini italiani piacciono le donne che vanno a donne, ma dai, su. Meglio donne che coi gay, dici tu, no? Ma no, non dico neanche quello, perché l'amore è libero, io sono talmente amante della libertà, lo dico sempre, che io non ho mai messo la museruola e manco il collare al mio cane. Ma tu non sei... I miei uccelli, che ho gli uccelli, che ha fatto I tuoi tanto uccelli? Come battuta, i tuoi uccelli? In che senso? Uccelli, adesso invece sono 12. Hanno una voliera enorme perché devono volare, non devono essere costrette. Scusami, niente. Iva, ma tu sei mai andato con una donna? Chi? Tu. Con una donna io? Ma sei scemo? E perché? No, ma perché secondo te ho l'aspetto della lesbica io? Ma no, vabbè, che c'è? Può succedere, capitare. No, no, può non succedere. Ho mai avuto quella curiosità, non ho mai avuto quel desiderio, non ho mai proprio mai. Ma vabbè, io, so, io mai. Sono antica, mi è sempre piaciuto il maschio. Sempre il maschio, sempre. Sempre. Ma hai visto cosa è successo a Strasburgo? Che il tuo collega Pittella ha vinto, c'è un record a Guinness dei primati. Ma dai, cioè, io l'adoro Pittella. 16 voti in 57 secondi. Preferito. Quando è lui, che guarda, io lo adoro perché è veloce, perché vabbè, oggi... È comunista, è del PD, Pittella. Sì, per questo che dico che è del PD, non lo so. Cosa senti, la Santanchè è meglio al partito oppure come vicepresidente della Camera? O a casa con Sallusti? La pitonessa, no, ma se lei si chiama Pittella, guarda, se lei si chiama scritto... pitonessa... Se ascolta, lei si chiama... voglio dire di Pittella. No, ma chi se ne frega di Pittella? No. Dai, su, ma questo è Parenzo, gli argomenti di Parenzo, Pittella non lo conosce nessuno. No, ma ragazzi, perché l'hanno accusato di essere... Perché in 57 secondi abbiamo votato non so quanti voti, 16 voti. Vabbè. E poi non erano sti voti, erano per alzate di mano, non era un voto Scusami. Neanche elettronico, era velocissimo. E viva Dio! E gli altri fanno dormire, lui invece è veloce, scattante. È il mio presidente preferito, viva Pittella. Vabbè. Cosa volevi sapere della Santanchè? La pitonessa... Hai visto come la chiamano? No, la pitonessa, io stimo molto la Santanchè, perché no, ma ti piace la pitonessa? È coraggiosa, forte. È una donna decisa, sono tutti forti, è una donna coraggiosi. Che ha difeso Berlusconi sempre, che continua con gli artigli. No, gli artigli sono i miei, che sono l'Aquila. No, pitonessa, non mi piacciono questi... Perché questi, no? Né l'Aquila, né la pitonessa. È una donna decisa, una donna che sa il fatto suo, che prendi questo in mano, signor. No. Guarda Giuseppe, che io ho un dono, sono come fatte più. Posso arrivare lì e schiaffeggiarti, Com'è? Non dire sciocchezze. Qualcuno diceva, prendi questo in mano, Silvio. Era una persona molto volgare. Lì nessuno ha detto quello, nessuno. Ma cosa intendeva, secondo te? Cosa intendeva dicendo? Il microfono ha cantato, ma ha detto, prendi questa mano... Prendi Silvio. Questo in mano, Silvio. E poi ha anche detto, ha incitato alla folla e tutti urlavano, Silvio, Silvio, Silvio, la folla esci, anche lì. Esci, esci. Ma dai, è una cosa patetica, vieni, Iva, dai, vieni. Su, una... Ma è una cosa patetica, dai. La folla. Ma come si fa ad andare sotto le finestre di uno? Sotto le finestre, ma sembra una cosa di uno condannato. Per ma lascia perdere condannato. No. Sotto lì. Ma perché? Ma dai, ma è una roba da regimi. Ma è una roba da idolatria. Ma è una roba da idolatria, dai. Ma è una roba incredibile. Ma è vero che questi sono anche pure incavolati, Ma poi uno non c'ha un cazzo da fare di lunedì pomeriggio e andare sotto casa di Berlusconi, quello, dai. Quello, ma certo, ma perché è meglio andare in piazza a manifestare per delle cavolate? Dai, no, su, è una roba da idolatria. Ma basta con questo culto della personalità. Proprio leader, scusa, ma basta con questo culto della personalità di gente che va in piazza a manifestare per una persona. Ma è una cosa incredibile, dai. No, Giuseppe, no, sbagli, perché qui è stata una cosa spontanea. Vabbè, ma che spontanea, tutto organizzato. Per la solidarietà di questa sentenza infamante che gli è stata. Vabbè, ma ho capito, ma quelli sono giudizi che puoi dare. Ma andare sotto casa lì a fare Silvio, Silvio, e poi quello esce, sta pure muto, non dice una parola. Ma com'è possibile, dai? Vabbè. Sta muto perché gli avvocati gli ha detto di non parlare, ma dai, perché sennò figurati, lui non parla. Figurati, appunto, se venissero sotto casa mia in 2 o 3 mila, dire Iva, fai, io guarda, volerei. Ma tu hai fatto la cantante, farei un concerto. Ho capito, dai, dedico con una canzone a Berlusconi, dai, dedico una canzone. Ascolta, non essere cattivo Giuseppe, che tu non lo sei. Ma io lo sono cattivo, perché io appena vedo la gente che va a manifestare a fare Silvio, di lunedì, Silvio, poi. Di lunedì, no, sotto amore, casa di Silvio ad Arco è una cosa patetica, dai. E quando manifesta la sinistra? Io sono cattivissimo, cose, non cattivo. Lasciamo ma perdere, la sinistra la stessa. Va bene. Ma ho capito, quando le manifestazioni sono una cosa. Destra, allora peste cosa. Ma non è vero, le manifestazioni sono una cosa. Andare sotto casa di Berlusconi, tipo idolo, là a fare Silvio, Silvio, beh, Silvio, sì, è, diverso, è una cosa assurda, ma dai. Ma non su. Era idolatrato, non era Silvio, Silvio. Ma come Silvio no? Perché volevamo che si affacciasse, perché la gente era demoralizzata, veniva da tutta... Ma che demoralizzata? Ma quale demoralizzata? Monte, durante la senti, Iva, tu sei sincera. Cioè, tu sei sincera, c'è gente che... Hai sì, capito. Ho capito, ma che vuol dire? Dai, su, ma bisogna impedire alle persone di andare. Io mi vergognerei a organizzare un pullman di gente che va sotto casa di Berlusconi a fare Silvio, Silvio, a dare la solidarietà. Cioè, è stato piaciuto è una roba penosa. Condannato per giunta. Ma lo direi di chiunque, non per Berlusconi, di chiunque. Insomma, ogni qualvolta, ragazzi, diciamo la verità, ogni qualvolta... Ma una roba di idolatria, dai, su. Manifesta... si scatena il putiferio, dai, gli altri fanno cose inenarrabili e tutto va bene, ma non è la manifestazione, è andare sotto il balcone a fare bene. Ma dai, qui è gente, i fedelissimi di Silvio Berlusconi che ha voluto manifestare al presidente la propria ma già il fatto che esistano ma già il fatto che esistano i fedelissimi che hanno amore è una follia, la politica comunque, è fatta a parte il fatto che non c'erano, come hanno detto, cartelli, c'erano le bandiere, c'era solo un cartello, ma c'erano 4 gatti, dai, su. Beh, 4 gatti non è vero. Ma allora c'erano 4 gatti perché dai. Ha suscitato tanto clamore, scusa. Ma sì, perché curioso, le telecamere, l'esercito di Silvio, altre cose di questo tipo. Se dai. Uno va sotto la finestra di una persona condannata in primo grado a 7 anni... Ma lascia perdere, tu la metti sempre sui processi, non c'entra niente. Ma per i processi. Me è stato condannato a 7 anni ingiustamente, perché io vado a manifestare la solidarietà al presidente. Ma tu ci andresti per me condannare un uomo, perché è nato con delle donne per 7 anni, allora bisognerebbe condannare tutta Italia. Perché? Scusa, Perché tutta Italia? Perché tutta Italia va a puttane, dici? Ma che puttane? Io non ho detto puttane, ma è per dire. Ma ha detto con delle donne, hai capito? Ma... Non ho detto puttane. Ma bisognerebbe condannare tutta Italia, secondo te. Te l'ho detto che tu lo sai che sono stata sempre anche molto critica con Berlusconi, gli ho detto che doveva fare attenzione, che insomma aprire la casa, tu lo sai già, lo sai perché l'ho detto proprio lì da certo, voi, ho suscitato sì. Anche insomma... Ma adesso io qui mi sono sentita, io non sono mai andata alle manifestazioni, a quella di Brescia. Ma scusa, ma la galera, io dico una cosa, scusami, qui, Iva. Sì, sono andata perché ritenevo. Vabbè, ma abbiamo capito, Iva. Di dover manifestare per lui. Certo, Iva, io dico una cosa, se Berlusconi va in galera, tu che fai? Se proprio in quel momento dicono domani vengono a prendere i carabinieri, tu che fai? Se Berlusconi dovesse andare in galera, se adesso hai fatto la manifestazione, io non posso fare niente se non dire che è stato condannato ingiustamente per questo processo. Ma che gesto sei disposto a fare? Nulla. Di fronte alla galera di Berlusconi? Niente. Te ne torni a casa la sera? Torni a casa, mangia la ministrina al burro, che deve fare? Se io mi auguro e spero che questo non accada e non accadrà, perché sarebbe una grandissima ingiustizia per il processo Ruby. Ma per ti incateni Dio, davanti al carcere, che scandalosa. Fai? Se dovesse succedere, che io non credo che succeda, mi dispiacerei moltissimo, sarei dispiacentissima per lui, per quelli che credono in lui, per la sua famiglia, per i figli. Ma faresti uno sciopero della fame della sete, ad esempio? Cosa vuoi? Io sono rispettosa delle leggi, io rispetto, perché io pago le tasse, io amo il mio paese, credo di essere una delle poche che non ha nessun conto all'estero, tantomeno né in Svizzera né nei paradisi fiscali. Signor Berlusconi, ma che conto all'estero c'è? E fare ciò che voglio. Va bene, ti abbraccio, pubblicità. Ciao amore, ciao. Chi? Con una donna io? Ma sei scemo? La Zanzara. Siamo qui 800 24 0024. Nicola, provincia di Livorno, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Pannella, facendo coming out, disse che lui aveva amato solamente due o tre uomini. Ora io due di sicuro li conosco. Sì. Cioè, chi sarebbero? No, poi te lo dico dopo. Però la telefonata mia è per questo. Io non sono cioè sono indifferente al matrimonio fra gay. E vabbè, però, se lei è indifferente ce ne faremo una ragione, insomma, no? Nicola? Però se il matrimonio gay servisse a unire Pannella e Sgarbi e mandarli in una lunghissima luna di miele, io sarei felicissimo. Perché non credo che ci sarà questa unione, anche se ci dovessero essere. In passato essere, ci fu una specie di lista Sgarbi-Pannella. Però sono due anime gemelle, insomma, sarebbe... Ma perché li vuole mandare via lei? Non ho capito. Ma perché aggrediscono le trasmissioni che io preferisco. Cioè? E non mi piace. No, cioè, Radio Radicale, Radio 24, così, insomma, così starei un po' tranquilla a godermi le mie trasmissioni preferite, ecco tutto, ho capito. Vabbè, ho capito, ma cos'è che non le piace di Sgarbi? Non ho capito bene. Cos'è che non mi piace di Sgarbi? Sì. È sgradevole. In una parola, sgradevole. È proprio la sua forza invece. Enrico da Milano, buonasera Enrico. Buonasera. La mia domanda è questa. Siccome abbiamo dato asilo politico a Ocalan e siccome l'Italia è in Europa tra i paesi che fanno lo spionaggio, le intercettazioni telefoniche in più alto numero, pubblicando anche sui giornali quelle che non hanno rilevanza penale. La domanda è: perché non ci prendiamo la talpa che sta a Mosca? La talpa. E che ci facciamo della che talpa facciamo di Mosca? Con la talpa? Non lo so, ma visto che siamo così bravi, che diamo asilo politico a Ocalan, bel individuo, bella azione. Che e che succede quando c'è quando abbiamo la talpa che sta a Mosca? Cosa succede? Interroghiamo, riusciamo, visto che indaghiamo su tutto. Siamo così bravi che, capito, abbiamo la dignità in tutti i paesi del mondo di prenderci la talpa per farla parlare. Siamo va bene, bravi. Massimiliano da Prato, buonasera Massimiliano. Buonasera. Dica. Francesco, provincia di Ascoli. Sì, buonasera. Vada. Buonasera Cruciani. Ho le palle giuste per dirle quattro, per dirne. Ma sì, le palle giuste, vediamo, verifichiamo. Lei vediamo. Invita quattro cialtroni di Forza Italia o del PDL a parlare, quando questa gente meriterebbe essere presa a calci nel culo, dalla mattina alla sera. Ma lei merita di essere presa a calci nel culo? Il signore che è stato processato e condannato deve andare in galera e sì. Se la deve fare per intero la galera, altro sì. Che lei lo difende e quella signora di prima viene lì e le canta come e le canta le balla in senso opposto, dice che questo povero uomo, questo qua, questo sì. È una che deve andare in galera, sì. Deve andare e ci deve restare, con lei tanta altra gente ci deve andare, sì. Ma lei, tanta addirittura io proporrei sì. La pena di morte per quest'uomo, certo. Eccolo, portarlo di fronte a un patibolo perché tale merita. Sì. Capisce? Questa è la storia. Ne abbiamo i coglioni pieni di eccolo questi qua. Ladri. Dobbiamo, pena di morte. Dobbiamo portarli al patibolo. Al patibolo, se non certo. Altro in galera e ci devono rimanere. Ci devono sì, rimanere. Francesco, capisce? Ma lei da stasera ci non è passato. Rimanere in galera. Non è passato e lei il medico non deve in corsia. Fare un'azione di difesa di niente. Questi ladri. Sì, ma non è passato nessuno stasera da lei no, a casa sua? In corsia non è passato. Lei deve stare tranquillo, Cruciani. Non è passato nessuno stasera, eh? Gli hanno le palle piene di questi ladri sì, che gli hanno tolto la camicia di forza. Che sono dentro il Parlamento o anche fuori. L'hanno liberato troppo presto. Piene. Non è passato nessuno. Ne abbiamo. Vuoi bello che dico ne abbiamo. Ma uno non è chiama? Chiama uno, il singolo, dice ne abbiamo gli arrescato. Ce lo voglio dire a Cruciani. Noi chi chiama sempre uno, dice ne abbiamo. Ne abbiamo chi? Chi? Tutti a titolo personale, tutti noi parliamo a titolo personale, ne abbiamo. Francesco, ne abbiamo. Voi che siete in corsia, cioè voi che siete degenti nel reparto lì in corsia, ne avete, si sì, può essere i 5-6 degenti lì che sono distesi sul lettino, che aspettano l'infermiera che arrivi a portare la minestrina e il brodino, che aspettano che l'ago entri nella vena per farvi la vostra dose quotidiana di calmante, dice noi ne abbiamo la scatola di piede, sì, quel noi, se voi, si vede. Capito Francesco? Che, meriti di parlare, capisci? Ecco. Non ho capito, scusi. Parenzo non merita di parlare dopo che si è fatto un litro di vino o ha sniffato non so che cosa, no, capisce? Quella... Perché tutta la sera io lo sento e sento sempre che c'ha l'effetto hangover, quell'effetto post-bornia che è tipico di chi assume, capisce? No, veramente che assume cosa? Assume sostanze stupefacenti. Perché noi chi non assume le sostanze stupefacenti? Ma lei dov'è in questo momento? Sei, che corsia è? Io mi trovo in sì. Una bellissima località di mare dove ci sono un sacco beh, di gnocchi. Certo. Reparto, dalla finestra si vede. Reparto dalla... lungo dei genti, certo, si vedrà il mare sicuramente. Sono uno che ama la gnocca, ma non sono uno di quelli che è un pedofilo. Capisci? Io non ho bisogno di stare con le bambine. Perché adesso questi ospedali li mettono effettivamente per calmarli, questi ospedali li mettono questi non reparti. Non piace la bambina, capisce? Sì, che chi le piace. Capito, no. E chi non amo neanche il pelo rasato, mi piace il pelo foresta, la foresta ombra mi piace. Poveretto, capisce? ma è chiaro che poi si esaltano perché vengono messi in questi reparti che danno comunque sul mare per dargli l'impressione di essere in vacanza. Però così loro, il malato si rilassa quando vede le onde del mare, no? Poi dopo tu li chiami e li sovraecciti. Ma com'è questa cosa del pelo, scusi? Ma è un malato, Francesco. Cos'è che le piace sì, a lei? Perché lei sa benissimo che c'è la tendenza delle donne alla depilazione, perché i signori gli homo sapiens che sono sì. Portati alla libidine della puerpera, la sì, vogliono certo. bella depilata. E invece io non lei... ho di queste trame mentali, io sono chi uno che l'ama foresta ombra, la voglio vergine, bella, ombra, ombrosa. Perché umbra? Ma no, ma di cosa parla? Perché per una volta era foresta ombra, si chiamava quando... Ma lei è un maiale proprio, ma cosa si mette a dire alla radio? Torniamo subito. Io amo la natura. Ma quale natura? Lei deve stare ricoverato. Quale natura che parla alla radio così, di queste cose che sono intime, che appartengono alla vita privata? Ma perché? Sta raccontando invece una cosa vera, che non gli piace... Depilata, ma gli piace. Ma chi piace... se ne frega? Ma voglio dire, hanno arrestato il signor Morsi in Egitto. Traffico, e questo parla traffico, della foresta. Adesso abbiamo un grande personaggio fra poco. Traffico. Prenda atto che ormai è tutto finito. La zanzara. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana io sono stanco. Como una muchachita, baila col ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno. No le importa mucho si no prendo sueno. Sì? Gianluca! Chi è? Che hai fatto? Buon anno! Buon anno. Cos'è successo? La zanzara, hai combinato un casino. Io ho detto quello che pensavo. Bravo, bravo, hai fatto bene. Un sacco di persone ti appoggiano. Parenzo, che cosa gli devi dire? Volgare, maleducato. Che cosa ha fatto? Abbassato, ha chiuso, perché è un coniglio. Perché? Perché? Richiamatelo. Perché è chiaro, richiamatelo. Non vuol parlare. Giovanni da Biella. Ah, buonasera. Dica. Buonasera, dottore. Buon anno. Sono due, una è una piccola finezza e l'altra è una verità. La finezza è che il signor Bonanno, quando era sindaco di Serravalle, aveva inventato il vigile virtuale. Era delle sagome di cartone che venivano messe sulle strade per rallentare Una buffonata pazzesca. Ma lo sappiamo. La seconda cosa, no, che non è una puttanata. Sembra che ha inventato la ruota. Leonardo va bene. Dice, ha dipinto cosa, l'ultima di cena, no? Ha inventato le sagome di cartone. Il fatto di aver, aver invitato Papa Francesco a Varallo Sesia non è un errore. Tenga conto che i santi di Varallo Sesia, assieme all'altro gruppo dei piemontesi, Europa, Crea, eccetera, è un monumento UNESCO rarissimo. Quindi ne sentiremo ancora parlare del bene oppure di cosa stranamente di signor Bonanno. Vabbè. Gianni da Modena, buonasera Gianni. Buonasera, io volevo spezzare una lancia a favore di Berlusconi e volevo dire, ma come pensate che Berlusconi, col capitale di denaro che ha e tutto il resto, possa pagare una ragazza? Perché è quando così strano. Non ne ha bisogno. Gianluca? Sento male, scusate, sono in un posto che prende malissimo. Però non abbassare il telefono, che Parenzo lo sai affrontare bene tu, eh? Non è che c'hai paura di affrontare Parenzo, eh? Gianluca? No, ma Parenzo mi fa paura. Che è successo poi a un certo punto quando sei uscito lì dalla... Villano. Perché anche ti hanno espulso? Villano, scusa. Proprio. Oh, basta con sto villano. Perché ti hanno espulso? Gianluca? Io sono stato espulso non per quello che ho detto a Sel, sono stato espulso perché ho esposto un cartello nei banchi del governo in cui c'era scritto il governo fa uscire i ladri. Dopodiché mi hanno portato fuori dalla parte dell'emiciclo di sinistra dove ci sono Sinistra e Libertà, che io avevo coniato precedentemente Sodomia e Libertà, perché non pensano ai lavoratori ma pensano ad altro, e questi mi hanno coperto di insulti. Io ho replicato, ma mi sono portato fuori. Che ti hanno detto? Non sono stato espulso. Che ti hanno detto? Che ti hanno detto mentre uscivi? No, non lo voglio neanche dire. Mi dispiace che il Presidente della Camera, cioè il grillino Di Maio, abbia avuto un atteggiamento fascista, perché non mi ha fatto fare quello che era normale fare. Addirittura fascista. Un atteggiamento fascista perché mi ha espulso per una cosa di cui io non c'entravo, perché mi ha detto che io ho reclamato e ho inveito verso quelli di sinistra, in realtà è stato il contrario. Beh, gli hai detto Sodomia e Libertà. Quello era l'intervento precedente che non ha sortito alcuna espulsione. Il fatto... Ho capito, però ha infiammato gli animi, no? Che ho fatto io è andato mezz'ora dopo. Però ha infiammato gli animi. Guarda, hai fatto come al solito la solita gazzarra alla Bonanno. Hai guadagnato. Non esiste più. Ma intanto togli la testa dal bagno. Parenzo per me non esiste più. Ma perché metti la testa nel water per parlare al telefono? Ma esci con la testa dal water. Vedi che chiude. Non vuole parlare con te. Chiude, perché ha paura del confronto. Umberto da Napoli, Umberto. Umberto? Sì. Dica. No, volevo semplicemente fare una proposta. Sì. Pannella. Sì. Ritengo che l'Italia intera, indipendentemente dalla condivisione o meno delle idee di Pannella, abbia un debito di riconoscenza. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? Non stiamo mica facendo il coccodrillo qua, adesso lei ci deve venire a raccontare oggi alle 20:25 che dobbiamo avere un debito di conoscenza nei confronti di Pannella. Io le rispondo e chi se ne frega, stiamo parlando d'altro adesso. Comunque, prosegua, avanti. No, la proposta era quella là di... Qual è la proposta? Senatori a vita Marco Pannella. Vabbè, senatori a vita andrebbero eliminati. Da sempre. Senatori a vita andrebbero eliminati. Beh, nel caso di Pannella sarebbe ma bello. Ma quando mai? Silvestro da Napoli, Silvestro. Buonasera. Dica. Niente, io volevo dare ragione a Sgarbi riguardo al discorso che l'unica salvezza di Pompei sarebbe quella di togliere Pompei dalla Campania, perché Pompei, come tutta la Campania, sconta l'invasività della politica clientelare, dei partiti e dei sindacati. Per cui quella che dovrebbe essere una risorsa economica del territorio diventa un postificio per gli amici e gli amici degli amici. Da cui l'unica cosa per cui aveva ragione quell'altro napoletano che è intervenuto attaccando Sgarbi è che facendo così ovviamente non ci sono le persone che hanno le adeguate competenze a gestire un sito come Pompei, a partire dal sovrintendente a finire ai custodi. Va bene, Matteo da Modena, buonasera Matteo, vabbè c'è anche qualche napoletano che dà ragione a Sgarbi però, eh. Matteo, dica. Pronto? Sì, vada. Sì, senta, io vorrei sapere se secondo lei esistono veramente delle persone in Italia, persone, degli stronzi che pensano che Berlusconi si possa fare anche solo un giorno di carriera. Ma sai, in Italia però tutto è possibile, eh. Tutto è possibile. No, perché no, mi spiega, lei è convinto che Berlusconi si possa fare un giorno di galera? No, e non sono convinto. Un altro dubbio, cioè quando Berlusconi morirà a cosa assisteremo? Degli episodi dei suicidi di massa? Cioè, perché se succede questo, perché lo condannano, quando morirà cosa succede? Vedete, ma non credo che ci saranno suicidi. Che inneggiano alla sua resurrezione magari. Non credo che ci saranno suicidi di massa, non credo proprio. Se succede questo adesso. Vabbè, Antonio, provincia di Bari, buonasera. Signor Cruciani, buonasera. Sì. La saluto, le faccio i miei complimenti per la sua trasmissione. Va bene, vada. Io volevo solo dirle delle cose assurde, le cose che si sentono continuamente contro questo sistema nei confronti di Berlusconi. Non ce la facciamo più. Quest'odio da dove nasce? Cos'è che scaturisce quest'odio? Ma di chi sta parlando lei? Non è odio. Mi riferisco a quel signore di prima che vuole vedere, non so, tutti questi imprenditori di destra in galera. Io sono testimone di una persona. A proposito, richiamatemi quello della foresta che ci voglio parlare. Allora, Antonio? Stavo dicendo, io sono testimone di una persona che ho accompagnato per 25 anni in provincia di Bari, che ha fatto e ha dato delle cose alla comunità di Bari enormemente, ha aiutato tante persone. Vabbè, allora? E allora io voglio dire a quel signore di prima di fare attenzione di come parla. Quest'odio da dove nasce? Provasse a fare l'imprenditore lui, provasse. Va bene, abbiamo la borsa, torniamo subito. Grazie. Foresta umbra, la voglio vergine, bella, umbra, ombrosa, pelosa, capisce? La Zanzara. Siamo qui, la Zanzara show di questa sera piuttosto faticosa, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Bocciato il taglio delle province anche, perfetto. E abbiamo, stai zitto che non sai, Gioele Magaldi è con noi, maestro massonico, leader del Grande Oriente Democratico, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, caro Magaldi? Massone. Bene, non c'è male. Senta, ma come mai? Il signor massone. Lei che è considerato di una massoneria, diciamo, di sinistra, anche se la cosa è piuttosto così volgare, detta così, no? Il Grande Oriente Democratico, perché insomma, lei ha preso una posizione su Berlusconi piuttosto chiara, contro la sentenza su Berlusconi che lo vuole in carcere per 7 anni. Come mai? Vabbè, è chiaramente la massoneria, cioè i massoni in quanto massoni, questo vale anche per il sottoscritto, non siamo di sinistra o di destra. Io come cittadino ho simpatie molto chiare di sinistra, di una sinistra che in Italia non c'è peraltro. Perché... Vabbè, lei comunque ha votato Partito Democratico, signor Magaldi. No, quello che ho votato, insomma... alle ultime elezioni è più complesso, nel senso che ho dato indicazioni di voto diverse, ma non è questo il punto. Ma lei che ha votato? Lei, signor Magaldi, maestro massonico. Io personalmente cosa ho votato? Alle ultime elezioni? Ma credo che sia più importante le indicazioni di voto che ho dato. Ho detto, diciamo, ho dato indicazioni di voto per PD, SEL e Movimento 5 Stelle. Vabbè, auspicando per dopo le elezioni la formazione di un fronte progressista. Cioè lei voleva il fronte progressista. Quindi i massoni hanno votato per Grillo, anche questo si può dire, no? Cioè, lei personalmente. Non è esattamente così. Cioè, signor Magaldi, scusi un attimo. Avrei auspicato innanzitutto la trasformazione del Movimento 5 Stelle da movimento confuso e velletario, quale poi si è dimostrato, in qualcosa di diverso. E quindi, e del PD da partito ancora più confusionario, sicuramente a destra sul piano delle politiche economiche, filomontiano prima e come dire, tuttora liberista adesso, insomma, avrei auspicato che ci fosse una fusione, una contaminazione e una proposta politica diversa. Noi oggi abbiamo un Letta Semel che in realtà è un Montibis. Però scusi un attimo Magaldi, lei personalmente Magaldi, no Magaldi, quello è un altro Magaldi. Insomma, Magaldi. Magaldi, no Magaldi. Bisogna sembrava strano che Magaldi fosse massone, se tu togli la D e metti la L diventa Magaldi. Invece è Magaldi. Magaldi, sì, sì. Una voce potrebbe chiedere chi è più serio tra Magaldi e Magaldi. No, tu te lo sei chiesto, tu che sei contro Magaldi, no, te lo sei chiesto. Sì, a me la massoneria piace moltissimo. Invece. Ti piace moltissimo? No, ma no, perché tu sei un po' radicato in Toscana dove ci sono un sacco di massoni. No, ma io non ho nessun problema con la massoneria. Mi piace, mi fa un po' sorridere che siete della massoneria di sinistra. Perché siccome massoneria pieno di massoni di sinistra. Sì, però... Si sa, no? Cioè, signor Magaldi, ma lei ha votato per. Parenzo non sa che diciamo la trasformazione del mondo moderno contemporaneo, che è stata una lunga marcia progressista, è stata opera di avanguardie massoniche. Però scusi un attimo, ma come storia, conosco, so benissimo. Magaldi, diciamola tutta, io lei ha votato per Grillo, diciamola. No, non lo può dire perché non è così. Io per chi ha votato cosa, lei? Ho detto che sarebbe stata auspicabile, non lo è più perché credo che appunto il PD va totalmente riformato e il Movimento 5 Stelle anche, ma all'epoca poteva essere auspicabile un fronte progressista nel senso che le ho detto. Voleva il fronte progressista, e vabbè, comunque, perché per lei la sentenza di Berlusconi è una follia? Ma allora, quindi, premesso il fatto che non bisogna confondere la posizione personale del... Vabbè, quello è chiaro, dai, su, Magaldi, lo sappiamo che... In realtà, insomma, noi, io personalmente, noi come Candidati Democratici non abbiamo mai fatto sconti a Berlusconi, né mai gliene faremo. Berlusconi è un grande imprenditore, è stato grande un massone grande anche, no? Voti, grande massone. È stato un pessimo statista e... Ma un grande massone anche, o no? Un cattivo politico. Il PDL ha fatto politiche clericali, sicuramente subalterne le influenze del Vaticano su diversi temi diciamo sensibili però Magaldi, scusi un attimo, laici e progressisti, però detto tutto questo, tutto ciò premesso, trovo che sia scandaloso che venga comminata una pena così severa a Berlusconi in un clima francamente ipocrita e fasullo di anti-berlusconismo becero, aprioristico, pieno di odio antropologico. Ecco, trovo che dare 7 anni in un processo indiziario dove non ci sono nemmeno querele di parte. Cioè la massoneria di sinistra difende Berlusconi, questa è la sostanza, sul processo Rubi. Questa è la sua sintesi, va bene. Sul processo Berlusconi lei difende la sinistra. Non difende Berlusconi, difende qualunque cittadino che in questo caso Berlusconi, oggetto di una sorta di fanatica caccia alle streghe in un clima ipocrita, sessofobico, come quello insomma che è emerso ma i massoni sul sesso come la pensano? Sesso... Questo è interessante. No, ma non ha una posizione. Cioè, sono un po' libertini i massoni sul sesso, sì. Ma io direi che dovrebbero esserlo, non tutti lo sono. Siccome sono libertari, dovrebbero essere anche libertini. Appunto, dico. Ma il movimento di Grillo in cosa si sta trasformando, secondo lei, signor Magaldi? Beh, il movimento di Grillo che cos'è? Purtroppo parte da presupposti insomma ma è una setta, una specie di setta? Ma no, cioè, insomma io trovo che sia senz'altro discutibile che uno si presenti per riformare le istituzioni di uno Stato si presenti per rappresentare le istanze sedicenti più genuine del popolo sovrano. Dopodiché offre per esempi quotidiani di stigmatizzazione del dissenso, chiaramente un clima generale di inquisizione per chi prova a svolgere il proprio mandato senza vincoli. Insomma, c'è tutto un clima attorno al Movimento 5 Stelle che fa di non solo di Casaleggio e Beppe Grillo, una diarchia autoritaria, ma c'è anche sotto una casta di cortigiani attorno a loro. Ma che... non ho capito però, signor Magaldi, ma ci sono dentro il Movimento 5 Stelle, risulta che ci siano dei massoni, degli adepti, dei fratelli, come direbbe lei, ci sono delle persone... ci sono dei massoni nel 5 Stelle? Guardi, con più... con ci più sono famiglia, o no dei con fratelli? Più, con più spazio c'è da dire molto di più, nel senso che... Casaleggio, ad esempio, porta Enrico Sassone ad altri personaggi che non sono stati finora nominati nel pubblico dibattito, che appartengono senz'altro a una parte del milieu massonico. Vabbè, quello però lei parla di Sassuno, di no, gente, ma Sassuno non è più neanche vicino a Casaleggio, signor Sassuno, anzi la vicinanza tra le persone. Capito? Non sta nel fatto che uno tra i dirigenti società si dimetta da una carica. Sì, ma nel movimento tra i dirigenti, nel movimento dei 5 Stelle, risulta che ci sia qualcuno in odore di massoneria? Non è questo l'importante. Insomma, abbastanza, invece potrebbe essere interessante. Guardi, il Movimento 5 Stelle c'è. Ma Grillo è massone? Grillo è massone? Grillo è massone? La domanda vera è con quali eventuali terminali Casaleggio, terminali massonici, è in contatto? Perché tanto poi... Con chi è in contatto? Ce lo dica lei, scusi. Con quali terminali massonici è in contatto? La sede, insomma, non è interessante, però già dire che è in contatto è interessante. Come le dissi una telefonata privata in cui lei mi chiedeva una intervista su questi temi, eventualmente con il giusto tempo e nei giusti modi si può anche fare un discorso così. Ma lei butta là la bomba che quello è in contatto con ambienti massonici. Vabbè, intanto ha detto che è in contatto con ambienti massonici. Lei dice che è stato Casaleggio. Ma Grillo è massone, secondo lei? Già, questo è interessante. No, Grillo negli anni passati, Grillo è un'altra cosa già da Casaleggio. Grillo andava cercando esperienze, aveva interessi esoterizzanti, che però come non vuol dire avere... Che vuol dire interessi esoterizzanti? Che vuol dire interessi esoterizzanti? Cioè aveva interessi di... La massoneria è stata storicamente l'istituzionalizzazione Cioè a Grillo piace l'esoteria? A Grillo piacciono gli ambienti esoterici? Che cosa piace? Esoterismo e massoneria non sono la stessa cosa. No, lo so, ho capito. È un'istituzione che ha anche contenuti esoterici fondanti. Ho ma capito. Non è soltanto esoterismo. Allora, le chiedo, Grillo... esoterismo al di fuori della massoneria. Grillo, negli anni passati, questo chiunque conosca un minimo la biografia di Grillo, sa che Grillo ha coltivato ambienti esoterici. E quali sarebbero questi ambienti esoterici? Ma andava, diciamo, cercando ambienti legati a sette antroposofiche, teosofiche. Insomma, sette antropo? E anche legato all'esoterismo sudamericano. Che Grillo ha frequentato. Ha frequentato l'esoterismo sudamericano, ma che vuol dire? Questo è interessante, però. No, non vuol dire questo, che Grillo, che è un uomo che ha una biografia, un uomo di... Ma per esempio, che ha fatto? Che ne so? Sono stati anni in cui nei suoi viaggi ha frequentato personaggi, per esempio, dell'esoterismo sudamericano. Ma cos'è l'esoterismo sudamericano? Di diverse persone, che solitamente vengono analizzate e lette a una sola dimensione. Ma non cos'è l'esoterismo sudamericano? Ho capito, ma cos'è l'esoterismo? È poco noto al grosso pubblico. Ma, insomma, ma cos'è l'esoterismo sudamericano? Lei sa cos'è l'esoterismo, perché sennò... Ma quello sudamericano in particolare... Sud America è un continente... Ma di cose appassionate in particolare, scusi? È un continente ricco di tradizioni esoteriche. Però scusi, Magaldi, di che cosa è appassionato Grillo da questo punto di vista? Ci sarà una pratica esoterica di cui è particolare? Questo chiedetelo a lui, nel senso, io so... Posso dire che la ricerca spirituale di Grillo ha confinato in frequentazioni, letture più o meno disordinate. Sì. Viceversa, ma c'è una pratica? Ha trovato in Casaleggio un ordinatore. Un ordinatore? Uno che gli ha dato struttura. Una struttura. Ha dato quindi delle risposte, non solo sul piano ideologico, poi arrivava la formazione del Movimento 5 Stelle, ma anche sul piano spirituale. Sul piano spirituale. Casaleggio è persona che ha invece ci sono dei riti esoterici che vengono fatti, no? I riti esoterici adesso non vedo cosa c'entrino. No, ma è così una curiosità. La formazione culturale. Sì, la formazione culturale, esoterica. Per esempio, qual è un autore di riferimento che ha, secondo lei, Grillo e Casaleggio? Che hanno Grillo e Casaleggio? Ma guardi, ripeto, Grillo parlare di riferimento culturale è troppo, perché troppo. Le sue sono così delle pellegrinazioni un po' confuse. Nel caso di Casaleggio, senz'altro c'è Gurdjieff, che è un pensatore. Ma questo l'ha detto lui, sì. Sì, appunto, dico, ma voglio dire, questo non sono cose ignote. Il problema nel caso di Casaleggio è che sono note le sue. Sì. I suoi interessi, i suoi modelli culturali esoterici. Quello che è meno noto, ancorché si sia fatto qualche accenno, è semmai i rapporti con ambienti massonici che non necessariamente si interessano di esoterismo prevalentemente. I rapporti con ambienti massonici. Vabbè, Magaldi, la ringrazio, la devo lasciare. Traffico. La Zanzara. Siamo qui con Marco da Genova. Marco, buonasera. Marco. Buonasera. Voglio fare una protesta fortissima nei confronti di Radio 24. Sì, perché mandate messaggi fuorvianti, allucinanti, sbagliatissimi. Sì. Cioè? L'ascoltatore che chiamava, che parlava appunto della foresta umbra. Assolutamente no, la patata va depilata. Ma questa patata è questa. Sì. Vabbè, ma ognuno ha i suoi gusti, Marco, scusi. Ma quali gusti? Lei sa benissimo e mi insegna che un conigliere. Ma io non insegno nulla, io faccio il professore. La umbra porta un fastidiosissimo senso, come quando ti rimane il pelo in gola, fastidiosissimo, per tre quarti d'ora buoni, quindi un messaggio. Beh, addirittura tre quarti d'ora ma buoni. Non sono mai scandalizzato, ma... Ma non esageriamo, dai, su, ma cos'è? È Radio 8, ogni tanto va fatta Radio Porno, qual è il problema? Cosa mi dispiace per questa gente. Il sesso fa parte della normalità della vita, per strada, la gente parla di questo, non parla di altro, la gente parla di questo per strada. A me dispiace, perché questa gente qui poi avrà una vita privata, allora, una fidanzata, allora, sì, un'amichetta. E allora qual è il punto? Una moglie, un amante, come, con che faccia tornano a casa? Ho parlato alla allora, radio della cosa ritrovare il sacro, il gusto del sacro, dell'intimo. Ma questo è il grande tema. Marco, prosegua, vada tranquillo. No, appunto, sostenevo che il messaggio dell'ascoltatore di prima lo trovo sbagliatissimo. E Parenzo non è molto esperto di queste pratiche, però si ricordi che la patatina pelata è molto più non mi interessa di dibattere di questo, perché lei è uno scacciafighe, glielo ho già detto, Parenzo. Ah, questo è quello dell'altra volta, questo glielo, è ancora glielo in genere. Già detto in precedenza. Ma lei si è fatto curare per questa sua malattia sessuale che ha, visto che parla sempre di questo, o no? Cioè si fa curare lei o no? È andato da un medico, bravo. Sono sanissimo, si un andrologo. Fabbrica, noi parliamo un bravo di andrologo. Cose. È andato da un andrologo, bravo, per farsi curare, per capire come mai è così maniaco. C'è stato. Nicola da Chieti, buonasera. Ciao, buonasera. Volevo solo dire che Parenzo, che chiama Goodyear, buon anno, e si trova come in contrastato. Allora? Mi risento al telefono. Buon anno, per tanti anni è stato il leader incontrastato delle cazzate in Parlamento. Oggi si trova insidiato da Razzi, dal nostro Razzi, e quindi è costretto ad aumentare la dose. Ma no, ma non credo sia questo. Non credo che il suo punto di riferimento sia Razzi, insomma, no. È che si sente che Buonanno si diverte come un pazzo in Parlamento, ma vogliamo ripercorrere con una musica che è quello di Grana Padana, tra l'altro, l'epopea di Buonanno, a partire dalla prima cosa, quello del Grana Padano, ma l'epopea in aula oggi, che è partita dalla questione dei sommergibili russi. Perché oggi a un certo punto Buonanno, come lo chiami tu, ha parlato dei sommergibili russi, la paura che un sommergibile russo possa portare il signor Snowden in Italia, i sommergibili russi. Ha fatto l'interrogazione al ministro. Stanotte, dopo aver preso una tisana, ho riflettuto su una vicenda importante, e cioè sulla questione della spia Snowden. Il problema è questo: avendo chiesto asilo politico al nostro paese, la preoccupazione è, non è che magari nel Mediterraneo c'è qualche sommergibile russo che fa uscire questo signore e ce lo ritroviamo magari sulle coste di Lampedusa? A questo punto il governo come si comporta? Lo prendiamo come profugo? Lo teniamo per l'asilo politico? Io vorrei sapere dal ministro della difesa innanzitutto se ci sono sommergibili russi vicino alle nostre coste, e poi cosa fa il governo nel momento in cui Snowden Snowden, eventualmente ce lo ritroviamo a nuoto sulle coste di Lampedusa e chiede asilo politico. La ringrazio, onorevole Bonanno, grazie. L'imbarazzo, senti l'imbarazzo di Giacchetti che forse presiedeva, la ringrazio, cioè, capito, l'imbarazzo evidente di sentire Buonanno era che interviene in su temi modo. Su temi indubbiamente più grandi di lui, indubbiamente sono temi un po' grandi per lui, leggermente grandi, come se io mi mettessi, se andassi a Radio Quark, la radio del signor Piero Angela, che magari non esiste, e mi mettessi a pontificare sui mammiferi, non so nulla io di animali, di mammiferi, di biologia, e lui parla di argomenti un po' più grandi di lui, il signor Buonanno. Matteo, provincia di Monza, buonasera. Vi foste dimenticati di me? No, non ci dimentichiamo di nessuno. Volevo fare un commento su Pompei. Il problema, allora, vorrei dire che Sgarbi è stato molto moderato. Io non vorrei militarizzare Pompei. Moderato, quel paese, vorrei che la Campania fallisse come soggetto IRPEF o IRPEG, che fallisse proprio economicamente a bilancio e venisse comprata dalla Germania. In Germania sanno gestire molto meglio i monumenti. Anzi, volendo, vorrei che fallisse tutta l'Italia, la Repubblica Italiana, venisse comprata da un paese un po' più rigido e serio. Beh, addirittura conti, adesso, fallimento totale, lei vuole il fallimento dell'Italia. Lo teorizzava già Bossi. Sì, perché è l'unico modo perché qualcuno un po' più astemio, non dico che siano proprio vergini, ma un po' più astemi rispetto alle tangenti alla corruzione, sul nord lo sono. Io sono stato parecchio in Germania, allora... Voi sapete sicuramente molto meglio di me che la Germania alla fine della guerra era rasa al suolo, al suolo, inclusiva di tutti i loro monumenti e di tutti i loro tesori culturali, e è stata ricostruita tutta. Io l'ho girata, dovunque vai trovi un palazzo, una basilica, un qualunque cosa, con una bella targa con fare scritto, tabula ricostruita rasa, negli anni 50, ricostruita negli anni 60. Tabula rasa per ricostruire. No. È diverso, voglio dire che loro hanno dedicato tantissime risorse ed energie a ricostruirsi tutto quello che per loro aveva valore culturale e storico. Noi invece ci sputiamo sopra, ci caghiamo sopra, lasciamo che marcisca tutto. Loro lo valorizzano, noi non lo valorizziamo. Capirai, è inutile che mi dici che Venezia è piena di turisti. Qualsiasi analfabeta sa raggiungere Venezia da qualsiasi parte del mondo, ivi inclusi gli esquimesi. Ma se avessimo va bene, grazie. Cose, Paolo da Roma, buonasera. Buonasera, si può fare una proposta? Sì, Io auspico ancora più sottobosco di quello che lei già non ha già inserito. Cioè? Ancora di più, se possibile, cioè più Mughini, più Paolini, più no, Mughini, anzi contraltare, se possibile, la doppia voce, si può fare la doppia voce, cioè la signora della 14 vicina a Zagrebelsky, domanda risposta doppia. Si può fare una cosa del genere? Perché voglio ridere anch'io. Io sono un altro casello, ma voglio ridere anch'io, quello di Torre in Pietra, quello che è possibile? È possibile, lo vorrei tanto Paolo. La prego, io la sostengo. La vorrei tanto, ci sentiamo domani 18:30, ciao. D'amore libero, io sono talmente amante della libertà perché io i miei uccelli, che ho gli uccelli che ha fatto tanto scalpore la battuta, che ho 5 uccelli, adesso invece sono 12, hanno una voliera enorme perché devono volare, non devono essere costrette a niente, hai capito? Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Pace bene a tutti. Radio 24. La passione si sente.